sei un fascistello di merda. Ma che fascista, ma smetti, non ti ricalzate. Sei ignorante come una capra. Esatto. Sei capace di pubblicare libri con mia sorella, non vali un cazzo, sei un stronzetto mal cacato. Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Bravissimo, ma che cazzo dici? Ottimo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Oh, Cruciale, senti a me. Io sono Ruggero da Bari. Segnatelo sto nome, segnatelo. Io sono quello che ascolta là. Se non tornate a settembre a me non me ne frega un cazzo di niente, hai capito? Ruggero da Bari, segnatelo, così puoi se WhatsApp e vedi che sono io, capito? Segnate sto nome, ascolta a me. Se non tornate a settembre a me non me ne frega un cazzo, vado su Radio Capital. Poi te vengo a cercare a te e mi rivolgo pure a Parenzo, hai capito? Cosa? Quando? Quando è che chiudete? Cornuti! In Senato c'è una legge bavaglio che vogliono approvare. La legge Zanna Scalfarotto. E che cos'è? È una legge che parla del reato di omofobia. Cioè che se tu esprimi un parere contrario ai gruppi omosessualisti puoi andare in galera. Se tu dici non sono d'accordo che due uomini adottano un bambino puoi essere denunciato e processato. Se a scuola a tuo figlio vengono a fare educazione gender, che non vi sto qui a spiegare cos'è, non andare contro la natura che vi ha creato, una madre che si ribella può andare sotto processo. Qua non si tratta di non rispettare le persone con queste tendenze, figuratevi, ma qui si tratta di voler mettere il bavaglio alla libertà di pensiero e di opinione. Dove siamo arrivati? Dove siamo arrivati? Si tratta di voler mettere il bavaglio alla libertà di pensiero e di opinione. Dove siamo arrivati? I veri italiani non sono froci, questo è pacifico. Poi ci stanno alcuni che dirazzano e pazienza. Va bene? Va bene? Va bene? No! Andiamo, Salvatore, con prossimo disco. Capezzone, capezzone. Fa sempre una certa impressione risentire quella frase dell'avvocato professore Carlo Taormina: i veri italiani non sono froci. Sì. È stato condannato, se non ricordo male. No, non per quello, frase. Non no, per quello, non per un'altra. Quello. Ingiustamente, secondo me. Non è roba da tribunale, non rompere il cazzo. No. Non cominciare questa trasmissione sempre evocando tribunali, condanne. Tribunale. Quello è stato posso condannato. Dirti una cosa no, in fermo, più. In collegamento dagli studi messi a disposizione di un signore che io conosco personalmente. Che ottimo, è il capo signore, della, ottimo, che è il capo della sette, diciamo, non il proprietario, ma è il capo della baracca, David Parenzo. Buonasera, grazie ancora. La baracca, grazie pure ancora. Monte Rosa 91 20 149 Mailand Milano. Eccoci qui, che cazzo volevi dire noi in apertura di questa emissione? Cosa volevi dire? Avanti, sono arrivato alla conclusione che ho dato mandato al mio avvocato di querelarmi, cioè mi sono ormai mi sono autoquerelato perché partecipo alla trasmissione da 10 anni. Il foro di Padova, quello cioè, comunque sarebbe straordinario. L'autoquerela, ti prego, fallo. Sì, l'autoquerela, perché sono correo. Sai che i giudici sarebbero capaci? Sai che i giudici sarebbero capaci di agire, di inviarti a giudizio? Io mi autocondanno, mi autodenuncio. perché vedo che non c'è altro modo per far chiudere e quindi ho deciso il gesto estremo radicale, se vuoi, molto radicale, pannelliano, di autoquerelarmi, perché partecipo a una, io sottoscrivo in quanto co-conduttore speciale, devo essere querelato e quindi bravo Ragazzi, iniziamo subito forte perché ieri Parenzo le ha prese dal professor Zangrillo. Finalmente avete invito. Ti ha bastonato. Basta raccontare balle agli italiani. Basta terrorismo. Non gli hai detto che è un irrespons- Non gli hai detto che è un irresponsabile. Ma non è un irresponsabile. Non gli hai detto, professor Zangrillo. Ripeto la stessa cosa che dico alla radio. Secondo me lei con queste frasi sul Covid che è morto, sul Covid, ha detto di usare le mascherine, perché è un gran paraculo, giustamente sa come funziona la comunicazione. Gli audio a tuo piacimento. Vai, ti ha bastonato e non gli hai detto che è un irresponsabile. Non ha bastonato. Non gliel'hai detto. In questo momento agli italiani va detta la verità. Quindi continuate a comportarvi non raccontando le solite palle della mascherina, del stiamo attenti, del qui e del là, perché sennò, ve l'ho già detto, la società civile muore. Basta raccontare palle, basta insistere su queste cose qua, le sappiamo già. Vi ha bastonato, soprattutto te, perché Telese è dalla mia parte su questo, signor Telese. Soprattutto Telese, ti ha bastonato. Telese è un irresponsabile. No, Telese è un grandissimo dalla parte di Tarro, dalla parte di Zangrillo, dalla parte delle persone che ci dicono: ci avete rotto i coglioni. Tarro. Rischiamo qualcosa, adesso, ma viviamo, certo. Tarro. Certo. Adesso Tarro è diventato il più grande. Beh, intanto ci ha beccato, chissà perché, non lo so se è un grande virologo, può darsi di no, non me ne frega un cazzo. Intanto ci ha beccato. Con l'estate tutto è finito, in Italia tutto è finito e tutto è finito. Allora, io non faccio parte del comitato tecnico scientifico, però in questo momento mi aspetto che il comitato tecnico scientifico dica agli italiani la verità. Che vuol dire? Uscite tranquillamente, riprendete a vivere, andate al ristorante, andate in banca, andate in vacanza. Se entrate in un locale chiuso, mettete la mascherina, ma continuate a vivere più di prima, perché altrimenti la società non parte e alla fine Conte, tra due anni, se c'è ancora, dovrà andare a chiederne 800 di miliardi, perché non basteranno. Qui però devo dire che hai fatto una giusta osservazione, non è il comitato tecnico scientifico che ci deve dire che cosa fare e cosa non fare, però amico mio, il succo del discorso dire, è questo, a differenza bisogna di vivere Telese, più di prima. L'ottimo Parenzo a un certo punto, adesso lo dico senza essere interessato, mentre Telese era lì ad accarezzare l'ottimo Zangrillo, l'altro che mi pare si chiami Parenzo ha fatto un'osservazione più che mai ragionevole, giusta. È ottima, sì, mi sembra adesso voglio parlare in terza persona perché sennò sembra che ci sia un conflitto di interessi. Quello che non capisco, professore, ma mi interessa molto il suo punto di vista. Sentite, signori, se voi pensate, questo allora, lo dirà la politica stasera, sono molto stanco per mettermi contro qualcuno, avete sbagliato. No, ma allora, tutt'altro, io anzi, sono dall'inizio uno che cerca di dire quello che osserva e ne inizio a avere anche le palle piene. Cioè, allora, è assolutamente evidente quello che accade, ok? Allora, se noi oggi in Lombardia abbiamo un morto dichiarato per Covid, vuol dire che non sta succedendo nulla. Punto. Poi possiamo costruire tutte le favole che volete. Questa è la realtà italiana oggi. Il professor Zangrillo continua a dirmi tachipirigna. Ragazzi, è un gigante assoluto Zangrillo, diciamo la verità, un gigante totale. Gottardo mi comunica Zangrillo un gigante. Ha ragione Zangrillo, ecco, un gigante. Dai, io fossi in Zangrillo farei querela. Adesso questa è una cosa che se tu vuoi bene all'ottimo Zangrillo, questa è un è una cosa che non dovevi leggere, non dovevi dire. Perché lo stai perché è come se a un certo punto la donna barbuta il nano che salta nel cerchio di fuoco dicesse Persino Fusaro, parole forti di Zangrillo e di Oscuri, Telese e Turbo Parenzo. Io mi preoccuperei. Perché vuoi distruggere la credibilità di Zangrillo? Perché? Citando queste due cose, distruggi la sua credibilità. Sono parole forti e decise quelle pronunziate dal dottor Zangrillo. nel corso della trasmissione in onda sulla 7 condotta dai dioscuri del politicamente corretto Telese e Turbo Parenzo, i quali hanno come sempre l'ufficio di garantire che l'ordine simbolico venga mantenuto. Ma non c'è nessun ordine. Ma io ti querelo. Ma non c'è nessun ordine di nessuno. Io ti porto via il microfono, l'unica cosa che hai, dal quale ti porto via tutto. No, quel non puoi poco che hai. Via, non puoi portare via tutto. Ma sì. Anche Fusaro ha diritto di parlare, dai, su, non diciamo cazzate, dai. Sì, ma come si permette? Dioscuro, ho avuto ordine. Ma da chi che non mi telefona nessuno? Ma magari mi chiamasse qualcuno per dirmi all'attacco, qui all'attacco. Nessuno chiede ordini da chi? Da Telese? Da chi? Ma chi è che chiama Telese? Ma secondo voi qualcuno chiama Telese? Secondo voi Luca Telese? Ma dai. E invece Zangrillo ha violato eroicamente l'ordine simbolico nella trasmissione quando perdendo letteralmente le staffe ai due giornalisti ha testualmente affermato: è evidente quello che accade, se oggi in Lombardia abbiamo un morto dichiarato per Covid sentito, vuol dire che non sta succedendo nulla, punto, poi possiamo costruire tutte le favole che volete. Buona. Appunto. Intanto Giordano torna all'attacco. Tocca la... Giordano. Quindi la carrellata è, attento, Gottardo hai detto. No, poi che hai detto Gottardo, Fusaro, che ha detto una frase, adesso, mi ha mandato un messaggio. E adesso dici Giordano. Beh, un bel quadro stai una costruendo. Una follia, bravo. Spendere 4.800 euro al mese per la quarantena degli immigrati. Giordano è incazzato perché mettiamo gli immigrati in quarantena. No, dove li devi mettere? 4.800 euro al mese per ogni straniero. Ora, in un'Italia allo stremo, in un'Italia in difficoltà, in un'Italia in cui non arrivano i soldi per la cassa integrazione, in un'Italia in cui si chiudono le attività economiche, in cui ci sono gli operai, si va da dire che si spende 4.800 euro al mese per la quarantena degli immigrati. È una follia totale. Beh, Giordano, oggi però, ragazzi... E cosa devi fare? No, ha ragione però, di fondo ha ragione. Devi dai, mandare in circolo, te lo ripeto ancora una quindi volta. Quindi qual è la soluzione? Ha ragione Giordano, ma è un ragionamento molto... Non lo so qual è la soluzione, non però lo so, di fronte ad so, una persona comune, se tu metti di fronte, scusami un attimo, paese bloccato per il coronavirus, immigrati che entrano adesso, abbiamo avuto la forza di bloccare un paese, non abbiamo la forza di bloccare gli immigrati che entrano. Ma cosa vuol È un dire? Ragionamento semplice, terra a terra. Della nostra salute sapere che gli immigrati sono in quarantena. No, niente. Intanto, ragazzi, una delle notizie di oggi importanti è Berlusconi che paga 20 milioni di euro al mese di buonuscita alla Pascale, ragazzi. 20 milioni di euro di buonuscita alla Pascale. Ma perché non siamo tutti froci? Perché non ci siamo messi con Berlusconi? 20 milioni di euro. Non 20 è poco, milioni di euro di buon. A Berlusconi, ma come cazzo si fa? Ogni volta che stai con qualcuna molli quattrini, l'ex moglie. Mamma mia. Chi era la fidanzata precedente? Non mi ricordo. Forse solo la Pascale. E adesso quest'altra vorrà soldi pure lei quando va via. Non sono sposati, perché 20 milioni di euro di buonuscita e 1 milione all'anno di mantenimento? 20 milioni di buonuscita! Ma quante cose deve sapere sta ragazza? 20 milioni! Ma te rendi conto? Vero che stare con Berlusconi non deve essere stato facile. Al mese, al mese. No, che al mese? 20 milioni è la buonuscita, 1 milione l'anno il mantenimento, almeno così sembra. Ah, 1 milione l'anno diviso 12 mesi? No, facciamo 1 milione l'anno, un che diviso? Ah, dice al mese, che ne so, sarà 100.000 euro al mese, 90.000 al mese. Per capire, appunto, esatto. Parenzo, pagliaccetto. Perché non gli hai detto a Zangrillo che è un irresponsabile? Eh? Mamma mia, che l'evento che sei, pare. La Zanzara. Via! Da questo canale! Zanzarosi, giornata difficile, chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701, scoprirete che potrebbe anche andare peggio. io credo che o prendiamo atto di questa situazione e veramente senza violenza e senza nessun infingimento scendiamo in piazza come si fece una volta tanti anni fa con la marcia della cosiddetta maggioranza silenziosa per bloccare questo percorso. Bisogna bloccare questo governo perché questo, come gli altri, sono il frutto di un modo di gestire il potere pubblico all'insegna della dittatura. L'avvocato Taormina vorrebbe bloccare il paese, ma che cazzo ne so. Mi segnalano, guarda, una cosa gravissima, l'Europa ha fatto una cosa gravissima, ho fatto già una denuncia alla Merkel, a Macron, perché, a sti criminali. Cosa ha fatto? Quale recovery fa? Abbiamo bloccato tutto, guarda, un branco di criminali. Abbiamo le prove. Cosa? È stato un'assassina. La Merkel, abbiamo le prove che la Merkel è un'assassina. Abbiamo tutte le prove. E Conte pure. Conte è un criminale, ma abbiamo ci sono delle intercettazioni segretate che abbiamo dissegretato, una cosa vergognosa. Le tireremo fuori, da bloccare tutto, bisogna bloccare tutto. Mi segnalano che tanto per essere in tema di radical chicchismo e di gente che non si fa problemi di denaro, eccetera, che tu e i tuoi collaboratori, pare anche Telese, avete preparato questa mattina la trasmissione all'ora di pranzo, eccetera, in un noto bistrò, uno deve dire bistrò, non ristorante, bistrò, bistrò, bistrò, bistrò, no, ristorante allora, so è troppo se... popolare, ma bistrò, se uno dice bistrò, anche se è una cosa da scalzacani, bistrò nel quartiere Prati scopro, a Roma, vero o no? Preparate le trasmissioni in un bistro del quartiere Prati. Se io scopro chi è che fa uscire questi leaks, io guarda, se scopro chi è, no, ma non la c'è questione è un po' diversa. Preparate noi, la trasmissione sì, in un bistro, le mattine in facciamo un brief a spese della sette, in un noto bistro del quartiere Prati, vergogna. Altro che popolo, andate a Tor Vignatara a preparare la trasmissione. Andate in trasmissione, fate un pullman, la 7 in onda. Noi siamo con il popolo e andiamo, preparate la trasmissione a Torre La Maura e Tor Vignatara. Ma dove con va? La mia bicicletta, appunto, siccome bicicletta, c'è il COVID, come tutti non possiamo di Milano stare che vogliono tutti andare a 15 ufficio, all'ora. Sala vuole andare a 15 c'è all'ora. Il COVID, siccome c'è il COVID e abbiamo delle norme giustamente da rispettare, non possiamo stare in 10 perché in una stanza. E allora facciamo all'aperto, invece facciamo la riunione all'aperto il primo mattino e poi organizziamo le squadre di lavoro. Porro. Milano si fa slow, l'altra grande minchiata di questa idea di andare slow. Ci sono le strade a 15 km all'ora, 10 strade in cui non si può andare più veloce di 15 km all'ora. Puttanata, è proprio il principio dello slow. Io pure sono contrario allo slow. Qualsiasi cosa è slow mi sta sui coglioni. Slow food, slow, mi sta sul cazzo, slow. Ma che è sta roba slow che bisogna andare piano? Ma vaffanculo, io voglio andare come mi pare, con i limiti naturalmente. È sta cosa che in alcune zone bisogna andare piano. Ma di che pare? Ma perché slow? La società slow. Cioè c'è il mito, la società slow. Magari questi qua poi invece vanno con Freccia Rossa e si lamentano pure se Freccia Rossa arriva con 10 minuti di ritardo. Gli stessi che sono a favore della società slow, cioè bisogna andare più piano, ti ricordi tutta la moda slow food eccetera, poi sono gli stessi che si incazzano. Cazzo, ma Freccia Rossa, porca puttana, no, Trenitalia, Italo arriva con 10 minuti di ritardo. Ma come, non volevi la società slow? Ma che cazzo vuoi? Questa dipende, 3 ore e 10, 3 ore e 20, dai, su. Buona. Ma il prete lo vogliamo sentire, quello che abbiamo sentito in apertura? Beh, questo è un mito. Don Calogero Dugo, provincia di Palermo. Vogliono mettere il bavaglio. La legge sull'omofobia è una legge assurda. Sono con il prete, nonostante il fatto che io pensi che la Chiesa non deve rompere i coglioni sulle leggi dello Stato. E lo dico soprattutto rivolgendomi al Papa, anche il prete omofobo. No, non è omofobo il prete, ma chi l'ha detto che è omofobo? Lo vedi, lo stai già bollando come omofobo. È uno che dice che questa legge, che questa legge assurda, non deve passare. In questo caso io sono con il prete. Abbiamo dei nastri che dimostrano delle brutte cose, guarda, brutte, guarda. E voi sapete che io ho depositato nei giorni scorsi una denuncia. Ancora questa denunzia. Vai col prete. Nel dubbio devi sempre denunziare. Qua non si tratta di non rispettare le persone con queste tendenze, figuratevi. Allora... Ma qui si tratta di voler mettere tendenze, il bavaglio alla libertà di pensiero e di opinione. Vai. Da parte di quelli che si dicono liberali e democratici. Ed è vergognoso se passa una legge di questo tipo. Se passa questa legge con questa predica, rischio la denuncia. Beh, adesso non esageriamo, Don Calò. Non esageriamo, Don Calò. Ma cos'è, Piazza Venezia? Però bellissimo, in piazza, una predica, un'omelia in piazza di libertà. Alla fine un'omelia di libertà. Un po' di cazzate ci sono, però un'omelia di grande libertà. Senti questa. Pensa con chi stai. Non è che sto con lui. Lo appoggio in questa battaglia, il prete. Va appoggiato. Magari dice delle follie sugli omosessuali, ma va appoggiato questo prete. Pensa che tristezza, con chi stai. Pensa con chi stai. Sembra che stia vincendo il nemico, ma all'ultimo Satana angeli, ti prego, i malvagi menzogneri t'ho appena appoggiato, Satana, perderanno. T'ho appena appoggiato, amico mio, Satana, no, t'ho appena detto che hai ragione. Appunto, però Satana no, ti prego, Patrizio da Roma, vai, Satana no, non ce la posso fare, Satana, non mettere in mezzo Satana, che poi mi stai sui coglioni subito, Satana. Qui non è questione di Satana, è questione di libertà. Se uno dice i gay mi stanno sui coglioni, deve essere libero di dirlo. Dai, su, Patrizio, dimmi. Il discorso è quello di Zangrillo. Dottor Zangrillo sostiene che l'epidemia è finita e possiamo fottercene. Non dice questo, comunque, diciamo che dice questo, dai, forse. Sostanzialmente dice questo. No, non dice questo, dice che i dati ci dimostrano che il Covid in Italia non esiste più, non è più mortale clinicamente, non è più pericoloso clinicamente, non è che non ci sono le persone che si contagiano, dai, su. Allora, lui si deve prendere, a mio parere, deve prendersi la responsabilità di ciò che mi pare che se la prenda. Se che lui vuol dire? Ha ragione, non ci sarà una seconda ondata. No, non c'entra e niente questo. Verrà santificato come il miglior esperto. Ma cosa dire? Però ma non parla di prima ondata, di seconda ondata. Non ha parlato di seconda ondata, che non ci sarà. Non ci sarà più il Covid. Ma cosa c'entra con quello che ha detto? Non ci sarà più. Ha detto esattamente questo. No, non ha detto che non ci sarà. Non ha detto che non ci sarà una seconda ondata. Ha detto che si è estinto. Ha detto che si è estinto dal punto di vista clinico. Non arrivano più persone. Non è più pericoloso per la morte. Non è più pericoloso. Ho capito. E allora non è detto che non possa tornare. Che cazzo vuol dire? Lui sarà un grandissimo esperto, anche se non è un epidemiologo e soltanto allora, un anestesista. Allora, se ritornerà, però, che se qualcuno morirà, lo avrà sulla coscienza. Ma non dire cazzate, ma no, queste sono verità. Puttanate, tu Patrizio. Non ma non dire puttanate, ma che cosa, quale responsabilità? Che è la sua analisi. È quella di dire alle persone: non c'è più. Ma non è che dice alle persone: baciatevi e leccatevi in piazza. Dice alle persone che devono continuare a vivere. È giusto così, libertà. Bisogna vivere. Il virus non c'è più. Certo, non c'è più. Che non è più pericoloso come prima, questo vuol dire allora, imbecille. Se non è più pericoloso, non ci saranno più morti. Fermo là. Ma se ci sono ancora morti. Vi hanno detto che non si sarebbe ripartiti, che sareste rimasti senza calcio e sport chissà per quanti mesi, che era tutto finito, chiuso, cancellato. E invece no. Radio 24 vive insieme a voi questa calda e lunga estate di sport. Tutte le domeniche, in diretta, tutti convocati weekend. Il programma che vi racconta cosa sta succedendo, ascolta la vostra opinione e vi farà vivere in prima persona la volata per Scudetto, Champions League, Mondiale di Formula 1 e tutti i grandi eventi che riprendono. Un'estate senza limiti. Giovanni Capuano, Carlo Genta e Pierluigi Pardo vi aspettano tutte le domeniche, rigorosamente in diretta dalle 17 alle 19 su Radio 24. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Promo 24. Piemonte, la nostra ospitalità è singolare e con il voucher vacanza sei nostro ospite due notti su tre in hotel, bed and breakfast, campeggio, alloggio, agriturismo. Più luoghi insoliti da scoprire, più sport all'aria aperta, più prodotti a chilometro zero, montagna o colline, laghi o città d'arte. I mille volti del Piemonte ti aspettano per le tue vacanze. Scopri gli itinerari per le due ruote e il trekking in paesaggi magici. Gusta il fascino della lentezza sui cammini spirituali. Visita i villaggi alpini e i parchi naturali. Assapora vini e cucina da intenditori. Vai su visitpiemonte.com e scopri come acquistare online il tuo voucher per una vacanza in pieno benessere e sicurezza. La Zanzara. Oh, grande Cruciani, anche tu mi hai aiutato a smettere di drogarmi. Sono pulito da 6 mesi quasi, non tocco cocaina e crack da 6 mesi. Sono veramente un'altra persona. Ho salvato qualche dente. Vi ringrazio, grazie a tutti, grazie a tutti. Ciao, ciao, arrivederci. Sento le voci, sì, mi sento chiamare dalle mie fantasie. Yeah! Dei sogni inconfessabili. Sento le voci, sì, mi sento chiamare dalle mie fantasie, dal profondo del mare, dalla TV, dalle porcherie, dal silenzio dei sogni inconfessabili. Demone scimmia! Demone, perché ha chiamato oggi? Com'è la situazione lì in comunità? Ma solita merda! Un dottore chiamato un dottore. Cosa? Qui c'è un ragazzo che muore affogato nella palude. Quando? Del Nazional Popolare. Davi! Non vedo la lucetta rossa. Come mai? Io voglio sapere da quel bugiardo di Conte, perché l'unico bugiardo è lui, con la sua compagnia bella che è Di Maio, Zingaretti, perché al governo ci sono loro. Tabi! Cruciani, non fare il pezzo di merda. Io già ad agosto sono relegato a Padova a finire gli studi, vedo le donne con le gambe di fuori e i sandali e non posso parlarne con nessuno, quindi già ad agosto dalle 6:30 non potrò più ascoltare la Zanzara. Se non tornate a settembre io ho un esaurimento nervoso. La Zanzara è la valvola di sfogo per i disagiati come me. Beh, adesso, che cercano di fare una vita normale. Sono come le pillole a un malato, tu non puoi togliere le pillole a un malato, altrimenti il malato muore. Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Oh mamma mia. Mamma, allora, nell'ordine, fammela sentire tutta. Numero uno, fammela sentire tutta la rassegna. No, c'è un pezzo, fate sentire un pezzo, fate sentire un pezzo. Sì, tutto un pezzo, vediamolo tutto. Ma la stampa ci è utile anche per capire, diciamo così, il clima dei giornali di oggi. Qual è il clima? Toni da Cinegiornale Luce, io non sono in grado di leggere con il ritmo delle mitiche voci dei Cinegiornali Luce, ma alcuni articoli andrebbero letti con quella cadenza. E vedete la supercazzola di Di Maio. Eccolo. Quando parlo di riforma fiscale mi riferisco a qualcosa che serve al paese, al di là della trattativa europea. Quanto al recovery, penso che bisogna mettere in piedi dei progetti su digitalizzazione ed economia sostenibile legata alle imprese per permettere alle aziende italiane di agganciare le sfide globali. Ma che cazzo vuol dire? Cioè, su questo c'ha ragione, dice, su questo sì, ha detto anche un cazzo, sì. Però su questo c'ha ragione, cioè, di super cazzo ce ne sono tante, se ne sentono tante, come si spenderanno da i soldi da parte di tutti, però pare che siamo diventati, posso dirti una cosa alla romanesca, pare che siamo diventati improvvisamente ricchi, la cassa integrazione ancora non arriva, la gente ancora non prende i soldi, pare che improvvisamente siamo diventati ricchi grazie a Conte, si può dire questa cosa in romanesco, pare che all'improvviso è arrivato il Papa, è arrivato il Messia e siamo diventati ricchi grazie a Conte. Non è così. Claudio da Roma. Claudio, dimmi. Claudio. La prima comunicazione: tutti quelli che la sera fanno bisboccia a quartiere Prati c'è una bella piazza dove tutti quelli con le caratteristiche giuste possono andare, Piazza degli Stronzi, non so se la conosci. No, non la conosciamo, Piazza degli Stronzi, non la conosciamo. Ma ride da solo. Primo dello, il primo degli Stronzi mi sa che ride sei tu. Da solo, sì, che chiami qua, infatti. Avanti e puccio di meno, chiaramente. Vabbè, Claudio, che vuoi, dimmi, che vuoi. E ride allora, da solo. Tranquillo. Problema dottor Zangrillo, che sappiamo tutti che è il medico personale del caro Berlusconi. Vabbè, allora non so se lo è ancora, sì, ma non è un crimine essere il medico personale di Berlusconi. Non è che il medico di Provenzano. Lui deve fare una prova eccezionale. Quale sarebbe la prova? Perché Berlusconi si fida di lui, lo prende per mano. Lo porta in mezzo a una piazza piena di gente. Ma perché? Ma perché lo dovrebbe fare? Spiegami perché. Perché poi avrei due risultati meravigliosi. Cioè, quale sarebbe? O che Berlusconi il virus non lo prende, quindi Zangrillo, la sua formuletta magica, tutti i giorni. Allora? Tutti. Cioè, prendere Berlusconi, portarlo in mezzo a una piazza affollata, oppure il secondo risultato? O se no la seconda! Che purtroppo a Zangrillo gli tira male, ma Berlusconi peggio. E qual è? Che tira le guaglie, non ho capito. E certo, e che ridi, porti, e che ridi, e che, e che ridi, e che ridi. Ma se deve fidare Berlusconi del Zangrillo, così mi fido pure io. È incredibile. Ma, cioè, secondo te, secondo te Zangrillo dovrebbe prendere tutti questo. Ma chi vuole fare? Ma se no, ma se la merda per Zangrillo. Senti, senti questo stronzo. Allora Claudio, se tu vuoi rimanere a casa, ma se, stronzo, ma se vuoi, se vuoi, tu sei uno stronzo, se tu vai a cagare. Se, ma se tu ma perché tutte le conversazioni merda, ma perché fiori, ma vai se, merda, se, può darsi infatti tu sei una merda, può darsi no, che nasco un fiore, è vero, se lo dice D'Andrea è vero. Scusami Claudio, io voglio dire una cosa molto, molto semplice. Se tu vuoi rimanere a casa tombato, mummificato, no, se, non vuoi, se non vuoi uscire, allora se vuoi se no, esci tranquillamente, ma che cazzo vuoi, e allora gira. Tu eri lo stesso, tu Cruciani eri lo stesso che ti cagavi in mano meno di due, certo, mesi fa. No, meno di due eri mesi lì fa, che tre piangevi, mesi fa, tre mesi piangevi, fa, quattro eri mesi lì fa, tre, chiuso ma chi in casa nella tua ma caverna. Quando, sempre qua andavo sempre a lavorare. A pietire, ma ecco, che dici? A pietire che pura, non facevi niente. Ma che dice questo? Volevi pazzo fare testamento, certo, dominato, allora impossessato dalla paura, allora, dai demoni. E allora, ma le non amanti adesso, però che sono ti venivano, che adesso ti volevano ammazzare. Eri una persona distrutta, distrutta. Che distrutta? Era una persona che aveva paura come tutti a stare qui a Milano. Beh, con Migliacco, la paura eri. Migliacco. Migliacco un corno, stronzo. Migliacco, miagolavi. Miagolavi. Ma quale vigliacco di che, ragazzi? Ma che siete scemi? Quattro mesi fa c'era l'inferno. Adesso no. Migliacolavi. Migliacolavi. Che tu sei il ciuccio, il virus deve essere curato con lavaggio continuo. Tu non ti lavi. Appunto. E quindi il virus. E quindi sei chiuso a casa tutto il giorno. Ma guarda, H24. Claudio, non sono mai stato chiuso a casa H24 perché venivo qui alle ore 13 circa, 13:30-14, sì, dove avrei lavorato la mattina a casa. E, ma quale ambulanza? Ma vai a cagare. E poi andavo il giovedì nella prestigiosa trasmissione di Del Debbio, che oggi purtroppo, in questo momento purtroppo è chiusa, assolutamente andavo ogni giovedì a Mediaset, dove meglio, minimo gli gnocchi, meglio gli gnocchi, ma se, del Debbio. Ma benissimo, se vuoi mangiare gli gnocchi, mangia gli gnocchi. Meglio gli gnocchi del Debbio, è amico di Porro. E allora sei amico di Porro, che è un crimine. E allora qual è il problema? E allora porro, e qual è il problema? Porro, non ho capito. Zangrillo, Porro, Del Debbio, tutti a rogo allora, tutti a rogo. Tutta gente che sta fuori anni luce dai miei logici pensieri. E chi se ne frega? Chi se ne frega dei tuoi logici pensieri? Radio 24. Questo 24 sembra bombolo. Parte loro, sì. questo sembra bombolo. Tranquillo. Francesco da Ferrara, vai Francesco, dimmi. Dimmi Francesco, dimmi. Allora, volevo dare una lezione di vita al signor Parenzio. Dimmi, qual sì, è la lezione di vita? Sì. Dimmi. La lezione Parenzio, di vita è il signor Parenzio, non fa altro che sempre giudicare Parenzio, a chi ha avuto dei precedenti però penali, Parenzio, a chi ha Parenzio avuto storie con il carcere. Ma veramente non voglio credo dire che io ho avuto storie con precedenti penali. Da e qui chiamano molte casino persone sono che hanno avuto precedenti sì penali, caro Davide. Come mai? Oppure neonazisti, fa neofascisti, negazionisti del virus. Eppure fascista, Francesco. È un pregiudicato. Sono 15 anni che lavoro cosa è sociale, che sì, ma prima che facevi, prima che agli altri, ma... Parenzo, tu oltre a sparare cazzate nella televisione, che minchia hai fatto male nella tua vita? Questo è buono, questo è buono, Francesco. È ma pregiudicato, è fascista, fatto, pregiudicato fascista che dice che scusi, cazzo hai fatto nella vita, Francesco. Sì, cosa ha fatto? A lei piace Capezzone? A lei che ha questo curriculum, le piace Capezzone? Lo conosce Daniele Capezzone, sì, ad esempio? Lo conosco, mi è molto... leggermente simpatico. Sì, è simpatico. Non ho simpatico. Altre domande. Può ripetere il suo curriculum? E io le sto antipatico. Io non ho altro da aggiungere, grazie. Può ripetere il suo curriculum vitae, per cortesia? No, qua... no, io lavoro, sono ma quanti anni, sei stato in carcere, dimmi? Ma roba da poco, sai, roba quante di tre anni, però ne ho combinate nella vita, perfetto. Non è poco, non va nessuno. E le piace, carcere. No, mi ripeta un attimo, non le piace Parenzo, giusto? No, io non è che me non mi piace, però spara sempre delle gran minchiate. Scusa, visti sì. I carabinieri, hai visto i carabinieri, grazie, che tu giudichi sempre dall'addelito. Le piace Cruciani, aspetta, invece, vero? Aspetta, Francesco. A me Cruciani mi piace, certo che mi piace Cruciani. Francesco, per che cosa sei stato in galera, scusa, tre anni, posso capire? Ma sai, contro il patrimonio, droga reati contro il patrimonio, significa furti, esatto, la pena, cioè, eri tossicodipendente? No, quello mai. E che facevi? Rubavo per la famiglia, sai, sono nato in Sicilia, sono nato a Palermo. Vabbè, che c'entri, sei andato a Palermo, che vuol dire? Sei andato a Palermo, allora rubavi per la famiglia, che vuol dire? Qual è il collegamento? No, rubavo perché, sai, nella famiglia c'era necessità. Ah, ho capito. Vabbè, perché? E ti piace Cruciani? E mi piace Cruciani perché è pure simpatizzante dalla Lazio, quindi ma che cazzo c'entra questo? Adesso voglio capire una cosa, quadro, Francesco, quadro, che cosa volevi dire dei carabinieri? Non ho capito, che dicevi dei carabinieri? Io voglio dire una cosa, siccome lui ha il vizio di giudicare per l'abito che uno porta, hai visto i carabinieri che effettivamente cosa combinavano a Piacenza? Vabbè, purtroppo a Piacenza pare che siano successe delle cose terribili, spaccio, torture, crimini vari in un'intera caserma, ragazzi, se è vero è giusto che vada in galera. E devono essere puniti molto severamente. Le leggi sono uguali per tutti, ma io credo, bravo, che un pubblico ufficiale che compie certe cose, se è vero quello che c'è scritto, perché poi bisogna sempre vedere, ma credo che sia vero, ci sono intercettazioni eccetera abbastanza chiare, se è vero dovrebbero pagare più degli altri, perché un carabiniere che fa quelle porcherie dovrebbe pagare. Non è possibile, chiaramente, perché è evidente che la legge non è che se uno commette un reato, che sia carabiniere o sia una persona senza divisa, non cambia nulla, però dovrebbero pagare più degli altri. Fermi tutti, fermo là. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Barisoni gay. Anna, ma non credo che questo si possa tradurre così. Anna, culona inchiavabile non si traduce in tedesco. Grande Mocavero, Kevin, devi morire fra atroci sofferenze, pezzo di merda, lurido essere infame, devi schiattare, ma devi soffrire. Ciao Cruciani, va benissimo abbattere i cervi col fucile, ma l'emozione più grande è quando gli spari, non muoiono e devi finirli sgozzandoli col coltello. Ciao bastardi, Alessandro da Milano. Quando sento parlare di costi, no? Ma non sarà più costoso continuare a finanziare chi veramente fa il traffico di esseri umani? Cioè la stessa guardia costiera che fanno il traffico degli immigrati. Se abbaia mentre parlo, Vado. Io mi taccio, Non le fanno le motovedette della Guardia Costiera? No, le fanno le ONG, l'ha dimostrato Zuccaro, infatti. Non le fanno le motovedette, no, le fanno le mafie. Mario, un momento solo. Ma io non posso avere il chihuahua sempre vicino. Non dire stupidaggini. C'è un chihuahua. Allora, dici stupidaggini fin dall'inizio. Ma lo sai che dico stupidaggini? Non cominciamo subito. È tutta la vita che dico stupidaggini. Paolo, non cominciamo subito. Facendo finta, dai Paolo. Cercavo di finire in pazienza. Allora, direttore Mario, fanno il traffico degli immigrati, sì, dai, sì. Non dir stupidaggi. Buona. Però sì, ma mi rassegno, che devo fare? Tra i clandestini, cioè, non vuol dire fare tra i clandestini. Gli italiani, ma Paolo, stiamo interagendo, siamo a tavola. Ma non stiamo interagendo, è come se parlassi con una trombettina che continua a far pio pio. Puoi fare cosa vuoi, puoi dire cosa vuoi, che cazzo vuoi. Siamo in studio. Se me ne vado, no, no, me ne vado. No, no, no, non vogliamo affatto, io non voglio, sono io la padrona di casa. Potresti parlare quando tocca a te, ecco, così. Noi. Molto bene, molto bene, molto bene. Noi. Molto bene. Noi. Icham, chi è Icham? Come si chiama questo qua? Alessandria, Alessandria, vai, vai. Buonasera. Dai, dimmi, dimmi. Buonasera, mi chiamo Icham Cruciani. Icham, vabbè, Icham. Un grandissimo saluto al signor Parenzo, David Parenzo. Sì, salam aleikum e grazie per essere venuto in Italia. Ma cosa c'è? Quello magari sta in Italia da 30 anni, ma cosa vuol dire? Esatto, cioè, infatti sono... Ho chiamato per quello, Cruciani. Perché tanta Di che origine sei? Marocco, Tunisia? Io sono... No, Marocco, Marocco. Marocco. Dimmi, grazie per aver scelto l'Italia. Che fai in Italia? Grazie per aver scelto l'Italia. Ma non aver scelto molto l'Italia, quello magari grazie. È nato in Italia. Che cazzo hai ne sai? Hai scelto l'Italia per venire qui. E ti posso chiederti di portare anche tutta la tua famiglia per piacere, infatti, se non è già qua. Infatti, arriva, infatti sto facendo la domanda per far arrivare mia moglie. Quindi sì, molto felice, grazie. Portaci la moglie, e se tua moglie ha anche dei genitori anziani, portali qui per piacere. E perché, scusa? Portali qua. Ma perché questo è un grande paese. Perché questo è un grande paese. E bisogno anche di loro. E infatti è un grandissimo paese. Se non fosse per Crociani, che io lo ascolto tutte le sere, anche la replica su YouTube. No, Crociani, veramente, io non so se tu chiuderai veramente. Scusami se te lo dico tu. Non so ma se tu puoi dire, fare quello che vuole, dai, del tu tranquillamente. Vedi che è educato? Non ho capito, Isha, ma che vuoi? Non ho capito cosa vuoi? Quali colpe ho magari... Io spero che tu aprirai a settembre e insomma aprirai il programma con un'altra maniera che lo dice lui quello che devo fare e come lo devo fare. Sì, ci sarà un altro programma che sarà dedicato ai paesi del Mediterraneo. Ho già parlato con la direzione della rete. Io voglio fare tutto un approfondimento, un focus sui paesi del Mediterraneo in particolare. Perché un'analisi ovviamente ogni in lingua originale, in arabo anche in arabo. Certo, ma tutti i dialetti del Marocco, tutti i dialetti arabi locali anche voglio fare. Vabbè, Isha, ma che minchia vuoi? Si può capire che minchia vuoi? Quello dice grazie. L'altro dice grazie al cazzo, cosa grazie? Ho capito, ma se non mi fai parlare. Ho capito, non si capisce cosa vuoi. Grazie. Ho capito, ti sto dicendo che tanti italiani, purtroppo, io non generalizzo, ma tanti non distinguono tra un africano che è arrivato ieri o un africano che sì, ma che vuoi da me? Sembra che stai giudicando questo programma come un programma di bestie, di ignoranti, di malvissuti. Isha, ma che minchia vuoi? Ma ecco, è quelli che ti chiamano tutti le sera, che mica il classico italiano che quando va nella merda tutto ce l'hanno con ce l'hanno con gli immigrati. Senti, questo qua che attacca gli italiani. Questo qua attacca gli italiani. Il classico italiano che quando va attacca gli immigrati. Ma cosa c'entra? Non generalizzo. Ma cosa vuoi? Non ho capito che cosa vuoi da me. Cosa vuoi da me? C'è anche il grande comico Chicco che ha fatto il film con Checco si chiama, non Chicco. Checco Zalone, che Checco Zalino. Ma vaffanculo. Torino da Latina, dai, che vuoi? Che vuoi, Isha? Ma che vuoi? Dimmi. Sono un po' emozionato per quello, perché ma non devi essere chiamo. Emozionato perché Checco Zalone che ha fatto il film Tonino da Latina, meglio. Tonino da Latina. Vai, Tonino, roba incredibile, incredibile. Senti. Amico di Parenzo questo qua. Isha, mio amico di Parenzo. Dante Cruciani controllo, vai Tonino, dimmi. Grande ma film. Sto mezzo scemo di Parenzo e mezzo oggi. Che succede? Aspetta, Buonasera. Buonasera e grazie per aver telefonato. Fermo. Buonasera. No. Aspetta, fermo. Sì, buonasera. Grazie. Fermo. Che devo trovare una persona. Ti devi trovare. Devo trovare una persona. Risponde 3. 4. Purtroppo. Tonino, dimmi allora che vuoi. In merda qui. Sono molto incattivo, sono un imprenditore, sai, pago le tasse. Quest'anno ho pagato 40.000 euro di tasse, Parenzo, per sentire i coglioni come a te, che tu sei un idiota. Lo so. Che c'entra, scusa, che c'entra però il pagamento? Grazie per questo confronto civile. Grazie per aver chiamato. Tu sei appeso a fare figure di merda? Sì. Ma ne metti in mezzo. Ma scusa, grazie. Tonino, ma che c'entra il pagare le tasse con Parenzo? Però adesso le due cose, non capisco qual è il collegamento. Hai pagato 40.000 euro di tasse e Parenzo è uno strozzo. Però tra le due cose non c'è collegamento. Allora, può darsi che siano vere tutte e due le cose, però non c'è collegamento. La condizione sine qua non è che Parenzo è un carissimo. Per questo abbiamo ascoltato. Poi dimmi. Conclamato. Vabbè, poi che vuoi dire? È un demente mentale. Secondo me è anche analfabeta. Ho dei dubbi che abbia studiato e abbia anche Buonasera, intanto buonasera e grazie per questo contributo che ha dato alla trasmissione. Ha fatto bene a chiamare in diretta, grazie. Michele da Roma, vai. Sì, eccomi, scusami Cruciani, che mi stavo scaccolando, sì. E quindi avevo poggiato un attimo. Evviva un altro, evviva. Giusto scaccolarsi, no. Si può fare tranquillamente. Sì, sì, no, le stavo cercando di tirare fuori una importante, certo. Beh, ma le caccole sono... Occhio che magari le tira fuori un po' del suo cervello anche, evidentemente, perché è talmente piccolo che le rimane giustamente in mano. Prego, chiami. Sì, può rimanere pure, anche grazie. Sulle caccole, diciamo, sì, può scendere, no, può scendere. È il suo cervello, è il suo cervello, lui ce l'ha nel naso il cervello. È un modo per passare il tempo, insomma. Esatto, no, lei si toglie pezzi di cervello dal naso. Succede. Vabbè, Michele, dimmi, sì, allora... bravo, appunto. No, volevo chiedere, siccome anche Parenzo difende questo modo di fare, un modo mediatico secondo cui se un bianco fa qualcosa a un nero è sicuramente razzista, quando avviene il contrario è un delinquente, ma nessuno parla di razzismo e mediaticamente non se ne parla. Vabbè, dipende ragazzi, dipende che tipo di azione criminale è, cioè, se è un'azione criminale in cui ci sono dei tratti di razzismo o comunque di discriminazione, evidentemente la manifestazione Giuseppe per George Floyd, se non fosse stato nero nessuno l'avrebbe fatta, parliamoci chiaro. Vabbè, questo non c'entra niente, uno la manifestazione la può fare, sono le violenze poi che non hanno niente a che fare con Floyd, certo, con quella vicenda. Però ciao Michele, ciao. Allora fermi tutti ragazzi, Pappalardo crea una nuova rubrica. Caro Antonio ti scrivo, senti. Cari amici buonasera, vi chiedo scusa se stasera la nostra rubrica Caro Antonio ti scrivo l'anticipiamo. C'è già questa rubrica. Alle ore 20. Ma non ce ne frega un cazzo. Un'ora prima, perché ho un grosso appuntamento con alcune con chi? Italiani che mi vogliono incontrare e ovviamente non posso deluderli. No, assolutamente. Un grande punto del nostro movimento è quello Qual di è? Stampare la nostra moneta. Oh, nel momento in cui stampiamo la nostra moneta, casa cari amici, questo. Crolla l'esigenza di far pagare tasse al 75% alla gente. Sì, perché in che senso, non è vero che paghiamo il 30%, il 32%, il 35%, il 45%. No, cioè, stampi moneta paghiamo non il 75% tasse? Perché fra luce, gas, bollette, eccetera. Sì. Arriviamo al 75%. Ma che c'è? Sì, e quindi? E dunque, se stampi moneta, non paghi le tasse. Ma beh, divertente questa cosa. Però è forte questa cosa. Quindi, scusami, quindi in Inghilterra non pagano le tasse, siccome in Inghilterra poi stampano monete, esatto, ma tu non dici niente, ma io non ho capito, e in America non pagano le tasse, senti, non riesco a capire cosa, senti, ma tu non gli dici niente, ma che niente, cosa devo però. Fare, aspetta, le conduttrici tutte con le tette di fuori, non so, non capisco a chi si riferisce, dobbiamo essere calmi, buoni, tranquilli, come quelli che appaiono in televisione, tutti che si mettono col fiorettino, con il sorrisino, con le conduttrici tutte con le tette di fuori, le cosce che ti buttano in faccia le cosce. Questo è il modo di presentarsi oggi all'italiano. Oggi le ragazze te la buttano in faccia, ma meno male, papà. Cioè, so che ai tuoi tempi era complicata la storia, ma meno male, meno male, papà là, meno male. Un tempo le manifestazioni in piazza le facevano i giovani perché erano coloro che volevano un nuovo futuro per loro, invece, un futuro migliore per loro. E invece? Oggi noi i giovani no. Li hanno imbacuccati, li hanno imbambolati, li hanno drogati, li hanno ammosciati. Tieni, beccati il cellulare, il motorino, la facile ragazza. Io quando avevo 16 anni per conquistare una ragazza c'era da bestemmiare per conquistare una ragazza. Ho capito, però. Oggi invece te la tirano in faccia, c'erano i giovani avanti tutto. Perché debbono lottare? Ma meno male, amico mio, meno male! Ai tuoi tempi non era così. Ma è una sfiga tua, è una sfiga tua. Una mia amica mi scrive: Parenzo, se ti faccio un pompino vedi come ti calmi. Una mia amica, cioè una mia amica anche molto piacente. Va bene, questo grazie molte, ma mi pare che io sono calmissimo e comunque e grazie non vuoi accettare, di questo pensiero. E non vuoi accettare. Ho la tua risposta è no. Questo pensiero, posso rispondere molte. No. In tempo reale. Grazie, cosa ho detto grazie no, molte. Grazie molte. Ecco, sto scrivendo grazie molte. Grazie molte. Dunque no. Grazie molte. Ma no. Non vuoi dire no, incredibile. Natalia, stai ascoltando? È evidente. Sì. È evidente che il contesto non è quello in cui si può discutere e ragionare politicamente. Dice prego, grazie molte. È evidente che il contesto non è quello in cui si può ragionare, ma è troppo lungo la risposta. Qual è? Che le devo scrivere? È una risposta politica. La mia amica Simona, Parenzo, se ti faccio un pompino vedi come ti calmi. Sì, grazie molte, ma non hai detto sì o no. Non può rifiutare, molte. Mi scrive, non può rifiutare. Fammi un vocale, Simo, fammi un vocale. Voglio fare un pompino a Parenzo, me lo fai un vocale? Mia, no, ma non rispondi, non dici di no, Natania, non dice no. Perché non dice no? È evidente che il contesto non è quello che l'Europa ci ha chiesto. Ma la supercazzola! L'Europa non ci ha chiesto. L'Europa non ci ha chiesto questo. Lo vuoi l'Europa o no? Mi scrive, fammi un vocale, l'Europa, Simona, l'Europa fammi un vocale. Ci chiede riforme strutturali. Ecco, sta registrando strutturali. Registrando l'audio. Ma comunque non hai detto di no, guarda che sei incredibile, Natania, no, lo stai io ascoltando? Ho detto no. Un'altra aspetta. Cosa, ho aspetta, detto aspetta, che aspetta. Il contesto aspetta, politico fermo. Voglio fare un pompino a Parenzo, dai Parenzo, su, quello? Accetta, fidati. Sì, ma chi è sta? No, ma chi è sta gente? Ma guarda, calma, che è una trasmissione. Vuoi o non vuoi? Guarda, hai detto sì. Ci sono due risposte, detto, sì o no. Stai facendo la supercazzo del contesto europeo. Internazionale, ma porca troia, non aspetta, lo consente. Aspetta. Ci sono i parametri. Ci sono. Non farmi dicare, rispondi. Sì. No, detto... no, ho detto siamo in trattativa con l'Europa. Il contesto in questo niente. Momento ma è la super cazzola questa. Ah, non consente interventi di questo tipo. Dobbiamo riservarci per tutto questo. Eventualmente, Natania, per ma lo stai sentendo che non dice un no secco? Significa che in questo periodo, per cause evidenti, non c'è nulla. Ma lo capisco, è normale. Non parlo di questi argomenti. Non sono contesti in cui si può parlare di questo. Aspetta, ma è evidente aspetta, fermo, che fermo. No, è evidente che no. Devi fare con me, sì o no? Ma non c'è. Guarda che sì. Posso dirti, no, posso mi dirti, incastrate, posso mi dirti mettete che, in mezzo no, ma posso a dirti, questioni che sai creare ad arte. Posso dirti una cosa, criminale. Posso dirti una cosa, ne vale la pena. Posso dirti solo questo, ne vale la pena alla grande, alla, ma non è, alla grande. Alberico Lemme con noi. Alberico Lemme con noi, eccoci qua. Io direi ne vale il pene. Ne vale il pene, sì, naturalmente, ne vale il pene. Mi mette il carico da 90. Lui non rifiuterebbe, diciamo la verità. Alberico non rifiuterebbe. Quando diciamo. Mai? Beh, quando no. Mai il mare rifiuta l'acqua? Beh, esatto, ma vedi, con una parola molto semplice, con una metafora, ma quando mai perché il mare può vecchio, rifiutare? È un vecchio porco malvissuto, evidentemente. Ma no, non è un vecchio porco per niente. No, sono un giovane porco. Diciamo le cose come stanno, Che veste in modo allora in modo il grande dietologo, ma assolutamente che da pagliaccio, il grande dietologo Alberico Lemme. Ma scusami, come va Albano? Uno che si fa, come va Albano? Uno che si... Albano va alla grande, guarda, è felicissimo, deve perdere ancora 5 kg, poi è perfetto. Ancora 5 anche siamo. Anche l'Alecciso ha perso 2 kg tra ieri e oggi, abbiamo convinto anche l'Alecciso a dimagrire. Dunque, questo è bello che dica queste cose in diretta dei suoi clienti, però anche ma sempre detto. Bello. Non lo dirò mai, di te solo, so solo che non ti sei laureato e sei un ignorante. Io questo vado in palestra, somaro che non sia altro. Io vado in palestra, somaro. E che non sai leggere e scrivere, ma brutto stronzo che non... Brutto stronzo che non sei altro, vestito come un... Ma sei non vestito? La patente, non sei tu vesti? Macchina, tu vesti? Penso un po' come no, ma, ma quale patente? Scusa, l'hai pagate le tasse il 20 luglio tu o no? No, io ho fatto l'azienda a utile zero, io le tasse non le pago più perché non faccio più utile. E consiglio tutti gli imprenditori a non fare utile, così le tasse non come si fanno. Come puoi fare? C'è un evasore? Cosa vuol dire utile, no, zero? No, utile zero? E Albano come ti paga, scusa? Come? Albano come ti paga, scusa? Albano mi paga, e che significa? Ma faccia utile zero, tanto entra e tanto esce, hai capito? Ah, perché ti compri, ah certo, chiama... fai il trucchetto, perché ti compri le grandi macchine, perché ti compri i vestiti. Fiscale, non è illusione fiscale, cioè, facciamo un avete capito chi è questo personaggio? È fantastico. Illusione fiscale, utili zero. Però mi sembra che sia molto preoccupato il mitologico Lemme dall'arrivo degli immigrati in Italia, giusto? Alberico. Sono molto preoccupato perché se voi ci fate caso li chiami tu come li chiamiamo? Vogliamo facciamo il test, se sono positivi li facciamo sbarcare, girons per tutta Italia, così la pandemia ricomincia e nessuno dice niente, sono l'unico che dice qualcosa. Andiamo diversamente colorati in mezzo al mare, facciamo il test, quando risulta positivo, ah sei positivo, prego accomodi, sbarca, vai in giro per l'Italia a infettare gli altri e nessuno dice niente. È ora di finirla, è ora di finirla con questa storia, che come rispondi a Lemme? È ora di finirla, no, è ora che Lemme paghi le tasse anziché parlare male degli immigrati. Io ancora che l'M paghi le tasse. No, però lui parla di diversamente colorati. Diversamente colorati. È razzismo dire diversamente colorati. Sì, chiedo alla Guardia di Finanza di verificare come fa a fare utili zero. Ma quello già c'è stato la Guardia di Finanza, lui l'ha denunciata. Ancora, deve tornare ancora. Come fa? È il contrario, eh? Scusami un attimo, diversamente colorati è una cosa di razzismo, David, spiegami questa cosa. Diversamente certo. colorati. Perché no, è da scemi e basta. Non può dire diversamente colorati. Sì, in quel posto, caro Davide, diversamente colorati, querelami, forza, non so. No, è da scemotti, ma non querelo nessuno. Ma poveretto, ma no, ovvio che do lo querelo, è una cosa allora, da scemotti. Da, scusa, ma chi c'è dietro questa? Chi arriva è una cosa geniale, effettivamente. Chi arriva in Italia? Cioè, quali tipologie di personaggi arrivano in Italia? Cosa c'è dietro? Voi non sapete, ma l'ho scritto anche sempre sul Pop, il giornale popolare.it, andate a vedere, andiamo tutti. Arrivano tutti quanti, liberano i delinquenti e svuotano sia le carceri che i manicomi, perché lì addirittura i manicomi vengono pagati dai propri familiari, l'invitto e l'alloggio, e quindi lo svuotano. Lo mandano in Italia, infatti tutti questi con macete, col piccone che tirano i sassi, che vanno in giro a pisciare, a cagare in giro, sono tutti matti, ma matti clinicamente, ma sono matti veramente. Hai capito? Sono matti che vengono qua, vergognatevi, sinistrati del cazzo, c'è la massa di sinistroiti, smettetela. Hai capito? Questa invasione dei diversamente colorati, noi gli invasori li andiamo a prendere. Ma c'è da vergognare, questo è matto completo. Italiani, ma uno può farsi fare la dieta da sto disturbato qua? Ma io non mi metterei nelle mani di questo qua, ma poi dici i nomi eppure delle persone. C'è sempre più gente, c'è sempre più gente. Ma lui sostiene, il mondo è pieno di disturbati. Lui sostiene certo. una cosa: che lui andiamo a prendere esattamente queste persone dai manicomi, dalla. Cioè, chi c'è? Lui dietro, abbiamo però? Preso in un manicomio. Lui l'abbiamo sono preso in un manicomio. Sono matti, di sfaticati delinquenti, non stanno al servizio della mafia nigeriana. Disse, porca miseria, spacciano droghe e prostituzione. Ma ci vogliamo svegliare? Ma questi politici che cosa stanno facendo? Hanno bloccato l'Italia. I poliziotti che vengono massacrati ai delinquenti da questi diversamente colorati non si possono neanche difendere. Cioè vengono accusati di razzisti, di razzismo. Ma siamo veramente impazziti tutti? Parenzo, siamo impazziti tutti. Parenzo, siamo impazziti tutti o no? Non ho capito. Cioè, siamo davvero impazziti no, tutti? No, vuoi rispondere sì, a lei o no? Vuoi rispondere perché certo, siamo davvero impazziti tutti ed è impazzito chi ti chiama a discutere di queste cose alla radio. Sì, siamo impazziti tutti. Questa è la risposta. Sì, io voglio capire una cosa però. Sì. Alberico, esiste una dieta apposita che tu puoi fare per gli immigrati? Tu non li vorresti qua? È ovvio che esiste. Io faccio il viaggio culinario, seguo il gusto delle persone. Ma che voglio far dimagrire. Sì. Io seguo il gusto dei migranti, loro ripropongo gatti arrosti che sono esperti. Come gatti arrosti? Arrostano i gatti per mezzo alla strada. Poi loro, per la frutta, per la vitamina B, gli propongo i kiwi, le banane, per cortesia, banane agli africani dobbiamo dare, no? E gli uci di cocco. Come vabbè, questa però è la stereotipo, le banane nel noce di cocco. Però tu dici gatti arrostiti, kiwi. Sì, però... banane e noce di cocco. E se preferisco anche qualche serpente, perché loro mangiano anche questo, anche i serpenti. Anche se cioè questa la dieta che tu daresti, diciamo, agli immigrati nei centri per immigrati quando arrivano, eccetera. Perché cioè... io seguo il loro gusto, le loro tradizioni, la loro cultura. Ma le tradizioni cultura. Che sono tantissime, le tradizioni degli immigrati, cioè sono tante. Però tu dici le possiamo ridurre a questo, la dieta dell'immigrato, la dieta dell'immigrato. Esatto. Capito Parenzo? La dieta del diversamente noce di cocco, kiwi, banane e gatti. E noce di cocco, lo so, quanto è scemo. Ma quanto è scemo? Ma se chi va da lui se chi va, sapesse quello che lui dice sulle donne, ad esempio. Ma le donne, ma se ormai, ad esempio, sapesse quello che dicono su di te, che io dico su di te, vengono a flotte. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Quello che dico su me, chi se ne frega di quello che dicono su di me? Sei un poveretto, sei ormai, sei un mitomane, sei un povero mitomane. A me non ti permetti perché sono ricco, va bene? Ma non devi dirgli poveretto, ma non puoi dire poveretto, a me quello è ricco sfondato. Cioè, sei un povero mitomane che hai ricco non paga le tasse. Utili zero. Allora, amici della Guardia di Finanza, potete verificare come un signore che si autodefinisce ricco? Volte, non ti preoccupare, è tutto verificato, è tutto sotto ancora, controllo. Ancora. Ma è tutto ancora, sotto controllo, se dice che è tutto sotto controllo, gli dobbiamo credere, no? Ma qual è il problema? Non ho capito. Ma certo che ci credo, assolutamente. Ma se a quello gli rode il culo che noi diamo i soldi agli immigrati, non so quanti al giorno, gli potrà rodere il culo all'M o no? Cioè, ho fatto un calcolo, ogni 1000 immigrati gli diamo, chi fa questo business, prende 8 milioni all'anno. Ogni 1000 immigrati percepiscono 8 milioni all'anno chi gestisce questi diversamente colorati. Svegliamoci! E sono gli unici soldi che lo Stato italiano paga dopo 150 giorni. Scusami, scusami Simone, questo pure è vero, però Simona, mi mandi un altro vocale per favore. Ovviamente lei sostiene, discutiamo di Pompini con un argomento serio, se vuoi il servizio anche con ingoio proteico, dice lei, con ingoio proteico. Ma cos'è? Ma è Simona, ma ragazzi, ma che amiche hai? Ma che gente Simona, è? No, ma cos'è? Altrimenti ingrassi. Simona, no, altrimenti ingrassi perché è ricco di glucosio lo sperma. Ma chi è questa? Io voglio, cioè, non ho capito, attenzione, questo è un argomento, questo è un argomento fondamentale di questa persona. L'identikit si dice al massimo. Comunque no, identikit, non lo so. Che... Scusa un attimo, si ingrassa con lo sperma? Non ho capito. Sì, perché è ricco di glucosio lo sperma, quindi ingrassa la Simona. Occhio. Beh, questo si possono fare, attenzione, ma senza ingoio. Ecco. Questo è il consiglio, questo, ecco, è il consiglio, intellettuale, questo è il ecco consiglio, l'altro. Attenzione, l'altro consiglio di Emme, i pompini si possono fare ma senza ingoio perché fanno ingrassare, mamma mia, perché è ricco di glucosio. Attenzione, attenzione, ultimo messaggio, attenzione, attenzione. Mamma allora, mia, siccome mamma. Stiamo parlando con l'Emme che fa tutta la dieta proteine, la vera proteina, ecco, il pompino con l'ingoio. Molto bene, molto bene. Ma l'Emme che io sono magrissima e ingoio come una disgraziata, quindi... Ma che amici hai? Ma chi è? Simona. Ma chi è? Simona. Fermi tutti, ciao Alberi, ciao. Ma chi ciao. È? La Zanzara. Simona. Ma guarda che Roberto di Salerno, quello che tu dici che stai salando l'ultimo respiro, il vecchietto, quello è il fascistone, quello che chiamava anni fa, e ti ricordi la figlia fece dai andiamo papà, ti ricordi? Ma quello è un mito, quello è l'ultimo grande vero fascista in Italia, Cruciale, tu te lo devi conservare bello caro caro, lo manna a fanculo, lo tiri i piedi, lo vuoi far morire, che cazzo, deve essere il nuovo Giovanni Roberto da Salerno. Crucia, segnatelo questo nome, così va a vedere su internet chi cazzo è Roberto da Salerno. Pronto, pronto, prima si parlava di Mussolini, ma molti non lo sanno, non sanno che Mussolini ha salvato l'Italia e credono di parlare, parlano come tanti cretini. Dai, andiamo, papà. Non cercate di riabilitare Gottardo, non ci provate, David non passeranno, no passaran su Gottardo, no passaran David! Beh, insomma, Zangrillo è sulle posizioni gottardiane, inutile girarci intorno. Quello che prima ti ha bastonato e ne abbiamo parlato, quello che ti ha dato due belle bastonate è su posizioni alla fine gottardiane. Cioè, tu stai dicendo, sto mettendo sullo stesso piano Zangrillo e Gottardo. Stai mettendo sullo stesso piano Zangrillo e la donna cannone o il nano che salta nel cerchio di fuoco o il generale Pappalardo. Io voglio molto bene a Gottardo, penso che sia una persona in difficoltà e che va aiutata, quindi non va offesa, stai né dicendo derisa. Delle offese non stai va, pronunciando no, delle no, offese gravissime come direbbe Taormina, gravissime, non va né offeso, io sai che fossi Gottardo ti porterei in tribunale alla radio. Ti porterei in tribunale, no, no, ma ti certo, toglierei via tutto, ma io voglio, ti toglierei io via tutto, avrà sempre la mia solidarietà, avrà sempre, e avrà a disposizione ma non ne ha anche vabbè. Tutti i medicinali, le cose, tutto quello di cui ha bisogno lui da me lo avrà sempre, perché io sono di sinistra e aiuto chi sta male, chi è in difficoltà sostanzialmente. Ma cosa ho detto? Ma più di dire, ma guarda che sei un bel personaggio tu, ma più di dire che aiuto le persone che hanno delle sei difficoltà che sono indubbiamente ma non è vero, è un modo per denigrare e pigliarmi il culo, ma non è, ma fossi modo, lui ho ti toglierei via tutto, ti porterei io via sono, tutto io che sono a disposizione per qualunque cosa, perché bisogna aiutare chi ha delle difficoltà, questo è il messaggio che deve passare. Sì, intanto passa c'è anche il vichingo, sentiamo sulla Boldrini, eccetera, ecco, sempre solo i esorcismi. Il vichingo, no. Sei tu che ma non puoi paragonare Gottardo il vichingo, sei tu che ma lo che fai, cazzo, quello è un conduttore, io. È uno che si fa un culo dalla mattina alla sera, vichingo? Tu che cazzo il vichingo, ma chi il vichingo, non ho capito di chi parla, non sì, capisco mai di chi parla, aspetta, non lo so. Guardatevi in chiara strega, responsabile di questa mentalità assassina! Guardatela bene, la strega! La strega! È lei la responsabile! Guardatela bene, la strega! Questa è la mentalità! Ma di cosa? La mentalità che ha portato il partito di Bibbiano! Ah. ancora con Bibiano. Soldi sui bambini. Lei ha fatto carriera con l'immigrazione e i suoi amici fanno soldi sui bambini. Il vichingo, signor vichingo, dov'era signor vichingo? Su un qualche piazza italiana. Dati soldi alle famiglie povere, come è scritto nella Costituzione italiana. I disoccupati devono essere difesi. I disoccupati non hanno la colpa. Ma ancora parla della storia di Bibiano, signor Vichingo, signor Vichingo. Intanto altri personaggi, naturalmente la signora Della Valle, la mia amica Della Valle, perché alla fine la conosco, eccetera, è impazzita a un certo punto, la signora Della Valle è impazzita con Dio. Sì, era ma non lesbica, dire Della Valle, era lesbica. Però. No, la signora, non ho detto dire la signora Della Valle. Perché che c'è? Perché se dici Della Valle, io penso a Diego Della Valle, il patron della tua. Se tu dici Della Valle, dimmi di Nausica, quella simpatica. Cioè tu dici lei sporca di il cognome Della Valle, non dici. Non ho detto sporca, dico non confondere senti, sempre le senti, cose, senti. Perché vogliono fare una legge dittatura. Loro hanno paura perché vogliono fare una legge che è una dittatura, e ti dicono o la pensi come me oppure te ne vai in galera. Questo è il fatto, perché qui stanno veramente, vogliono togliere l'articolo 21 della Costituzione italiana. Insegnano ai bambini a toccarsi. Ma anche il gender fluido, oggi mi sento maschio, domani mi sento femmina, dopodomani mi risento maschio. Allora, ma che confusione è? Il gender che viene per forza insegnato nelle scuole. Ma dove? Adesso stanno facendo ma corsi chi? Anche maestri ancora? Per insegnare ai bambini da 0 a 4 anni, ma che chi? Si devono cominciare a toccare nell'intimità, nell'intimità. E poi da 4 a 6 anni puoi toccare anche i genitali del bambino, dell'amichetto tuo, per vedere se ti dà una reazione. Ma lo stai inculcando, quindi i bambini ma chi sono lo come inculca? Spugne. Ma chi? Mia figlia è andata a scuola, nessuno ha insegnato a mia figlia che si doveva toccare a 4 anni. Ma che cazzo dici? Ma perché? È perché se poi comincia a ragionare diventa un problema, comincia a uscire fuori da determinate situazioni e non vogliono, perché c'è i poteri forti, come poteri giustamente forti. Stava dicendo Giorgio, c'è un sistema globale che vuole tenere sotto controllo tutta cosa? La popolazione. Io vorrei fare anche degli esempi. Oltre altro, l'omosessualità nasce da abusi e stupri. Ok, l'omosessualità non è una malattia, ma è un disturbo omoaffettivo. Dici non è una malattia e poi dici un disturbo. Anche di bisogni irrisolti che partono proprio dall'infanzia, proprio dalla parte genitoriale. Poi ci sono anche storie che si, per esempio storie di abusi, stupri, perché in famiglia pure, oltre che amici di famiglia. Marcella da Roma, vai avanti tutta, dai. Pronto? Dimmi Marcella, dimmi. Ciao, io volevo intervenire. Marcella. La signora Marcella. Aspetta, Marcella, scusa un attimo, metti bene il telefono innanzitutto, metti bene, vai. Perché chiama metti la signora bene Marcella? Il telefono. Vai, Marcella. Dimmi Marcella. La signora Marcella chiama per Kevin. Perché? Chi è Kevin? Ah, il cacciatore, sì. E niente, volevo dire, siccome ho lasciato un messaggio. Sì, un dimmi. Forte. Prego, cara, volevo confermare quello che ho detto nel messaggio, che un soggetto del genere per me non è degno di vivere. Cioè, non ho capito, secondo te un cacciatore di cervi o comunque un cacciatore pazzesco non è degno di vivere, non ho capito. Un cacciatore del genere non è degno di vivere perché è un assassino. E in più la raffinatezza. Ma tu sei completamente fuori di testa. Tu sei completamente pazza. Posso dirti che sei completamente fuori di testa? Cioè, io ma ho sentito. So, cioè, sei completamente pazza. Dire, come cazzo fai a dire una cosa del genere? Cioè, come fai a dire che un signore che va a caccia non è degno di vivere? Ma sei una pazza totale. No, incredibile. È un ragazzo di 26 anni che invece di fare cose belle va a ammazzare gli animali. Ma saranno cazzi suoi, non ammazza animali. Ammazza animali, certo, ma lo fa secondo la legge. Vieta la caccia, allora scendi in piazza in catena. Ma che lo fa secondo la legge? Secondo la sua coscienza non dovrebbe farlo. Ma tu sei completamente... Cioè, di posso dirti? Anni, ma che genitori può aver avuto? Uno che ha 26 anni per hobby? Per hobby, certo, per hobby, sì. I cervi, i camosci... Per me è un essere proprio inutile, leva l'aria agli altri. Ma è inutile, perché devi dire inutile? Non serve uno così. Ah, non serve, facciamolo fuori. Inutile. Non serve, facciamolo fuori. Esatto. Ma esatto, un cazzo, ma tu sei matta, togli il viva voce innanzitutto, togli questo auricolare del cazzo. Mamma mia, guarda che non c'ho l'auricolare. Sì, infatti si sente bene adesso. Chissà perché si sente meglio adesso. C'avevo la viva voce, non ma c'avevo l'auricolare. Ma vattene a fanculo, va, come al solito. Io me ne vado anche a fanculo e lo sapevo che mi avresti mandato a fanculo. Cioè, non beh, togli, signora, lei però così. Ma non è questione di pensare, lei dice delle cose aberranti, cara signora, non è questione di dire io la penso Davide? Così. Lei Davide, non è che ci conosciamo, Davide, io la chiamo allora, gentile signora. Chiamare, scusa, come ti deve chiamare pure te? Mi chiami Parenzo, sua eccellenza, esatto. Mi piacerebbe sua eccellenza, come sua eccellenza. Sua eccellenza, sua eccellenza è bellissima. Sì. Di sinistra, immagino che sua eccellenza le faccia molto piacere. No, caro l'appellativo, Parenzo. Cara, come l'appellativo ce l'aveva. Cara, l'appellativo sua eccellenza è ironico e se l'era dato quel pelato dittatore che per 20 anni ha rotto i coglioni in Italia facendo parecchi danni. Sua eccellenza. Parenzo, non mi stuzzichi, non mi interessa. Perché lei è fascista, lei è fascista, no, signora. No, io non sono fascista. Però sei, però sei un'ammiratrice di Mussolini, diciamo la verità. No, non sono una mia. Purtroppo Mussolini non c'è più, sono purtroppo. Per me non ci sono altre domande. Io non ho altro da dire. Purtroppo grazie. Non c'è più. Purtroppo non c'è più. Disse la signora animalista, capito? La signora animalista questa fascista. Tutela più gli animali, però assolve Mussolini. Lei è una vergogna mondiale. Lei, cara Marcella, o come cazzo si chiama, è una vergogna mondiale. Una vergogna mondiale. Si preoccupa, lei, parte, lei Parenzo, si preoccupa parte, degli animali e non delle merda, persone. Lei è ma quale merda, italiana, gentile signora Marcella. E lei invece è una merda nazionale. Vada a quel paese lei e vada a quel paese lei e i suoi cazzi di criceti, ha capito o no? Anziché fare l'elogio attacca, di Mussolini attacca, e poi Marcella. Attaccare i cacciatori o chi altro. No, si no, vergogni di difendere detto, gli animali più degli uomini. Ha detto un'altra cosa, che quel cacciatore lì, e in generale tutti non i cacciatori, non meritano di vivere, prima cosa. No, pensa non te. Disse la signora mussoliniana. Disse la signora mussoliniana. Secondo ha detto purtroppo il pelato non c'è più, sua esatto, eccellenza non c'è più. Esatto, Cruciani, io ti adoro, Cruciani, lo sai che io ti adoro. Beh, adesso non me lo dica ecco, così lo forte. Ripeta, lo ripeta ancora. Ti adoro. Lo so, questo ti dà l'idea complessiva della trasmissione, cari ascoltatori. Dove c'è la nazista la fascistella, la povera fascistella, la nipotina di sua eccellenza, nipotina. Lei sarà un povero di sinistra, nipotina, io non sono una povera. La nipotina di sua eccellenza. Scusa, Marcella, perché ti piace così tanto il signor Pelatone, il signor Mussolini? Perché dici che è stato... Ma chi te l'ha detto che mi piace? Ho detto che mi piace. Beh, hai detto che mi piace. Come dicono tanti, in confronto alla politica di adesso, era un uomo meraviglioso. Un uomo meraviglioso. Era un dittatore, cazzo! Era un dittatore! Parenzo, ignorante di un ignorante che sei! Parenzo, non te ne sei ma accorto? Ma quale in casa? Non dica stronzate, gentile signora! Non dica stronzate, gentile signora! Siamo sotto dittatura, Marcella. Non te ne sei accorto? Adesso dittatura di sti cazzi! La dittatura dell'imbecillità di chi chiama bello qui! Mio. Questa diciamo è la dittatura! È una bello dittatura mio! Ma qual è cara la mia signora? Ma quale dittatura? Scusa, Marcella, ma dov'è la dittatura? Questa è pazza! Qual è la dittatura? Ma comodo quelli come te, caro mio. Scusi, signora, lei ha mai provato il pissing? Ha mai provato il pissing, Marcella? Scusa, non so che cosa sia, non sai cosa. Non sai cos'è il pissing? Il pissing, non lo so che cos'è. Non sa cos'è il pissing, grazie. Io non ce la posso fare. Magari l'ho provato e non so che si chiama così. Aspetta un secondo, te lo faccio spiegare. Ma chi ha provato questo? Logica, spazio, tempo, modul block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta La Zanzara. Ma io penso che vorrei essere il padre di questa ragazzina. Ah, bene. Vorrei che fosse mia figlia, bene. Così la prenderei a sberle. No. Right here. Right now. Greta Thunberg. Yeah. Right here. Greta Thunberg. Sono un animalista, animalier, animal house. Dormo sotto le stelle tipo scout. Si è estinto il koala prima che io ne assaggiassi uno. Tu ti estinguerai prima di aver estinto il mutuo. Io penso che vorrei essere il padre di questa sì. ragazzina. Ah, bene. Vorrei bene. Che fosse mia figlia, bene. Così la prenderei a sperle. No. Ce la posso fare, meglio di mio padre, io ce la posso fare. Greta Thunberg. La mia razza si estingue. Ce la posso fare, meglio di mio padre, io ce la posso fare. Greta Thunberg. La mia razza si estingue. Greta Thunberg. La mia razza si estingue. Greta Thunberg. Quanta gente che spinge. Greta Thunberg. La mia gola si stringe. Greta Thunberg. Quanta gente che spinge. Godo come un riccio, godo. Godo come un riccio. Godo. Eccolo. Luciani, veramente io sono sempre dalla tua parte, ma quando parli veramente degli animali sei una merda. Quello c'ha ragione, tutti i cacciatori sono degli infami e basta, che se la prendono come con i deboli. Il cacciatore equivale al classico bullo della scuola che se la va a prendere con i più deboli, con gli indifesi, con quelli che non si sanno difendere e non possono difendersi. Quello è il cacciatore, uomo di merda. Un abbraccio, buona serata, ciao. E Forza il Duce, ti abbraccio Giuseppe. Ti abbraccio, cara, è la figlia di Giovanni da Reggio Calabria. Caro Parenzo, dovresti ricordartela, la signora Prestipino. L'altra famiglia di fascisti, non c'è dubbio. Non c'è mai di dubbio. Io l'abbraccio però perché... Comunque, guarda, questa trasmissione, se posso rivalutarlo a due giorni, tre giorni dalla chiusura, un merito ce l'ha. Qual è il che verito? È quello che paradossalmente fa parlare i nazisti, i fascisti, eccetera. Ma li possiamo schedare. Attento, li possiamo schedare. Io ho un libretto? Sì, ma io no, ogni ma cosa volta devi... che c'è il libretto rosso, il libretto nero, che c'è il libretto rosso dove scrivo i nomi di questi, i nomi correlativi, i nomi, numeri di telefono qua. Magari Reggio Calabria, quello no, c'è la privacy. Reggio Calabria, adesso la signora Marcella, ho tutti i nomi. Ma quella non è fascista, ha detto che le piace il Duce, chi se ne frega. Ho i nomi, posso avere i nomi? Lei chiama, dice una cosa. Ti do anche il cognome, ecco. Se vuoi. Qual è il suo cognome? Qual è? Mi dica, qual Petrelli, è il cognome? Qual è? Marcella Uccelli. Va bene, signora Marcella Uccelli, perfetto. Petrelli. Dove? Che battuta volgare sì. Da dove? Osteria, no, non ho sentito, scusa. Marcella, come si chiama? Marcella, Petrelli. Marcella Petrelli, Petrelli, Petrelli. Castelli? Petrelli, Derelli? Petrelli. Petacci? Marcella ma Petacci, ma ascoltami, sei sordo? Marcella cominci Petacci. Avere problemi di udito. Marcella Petacci. Okay. Residente dove Marcella Petacci? Come va l'attacco, no, Marcella? Non si preoccupi. No, non si preoccupi. Udito, ci sento benissimo. Le sue stronzate le sento benissimo. Come non si preoccupi. Io sento le sue parole. Marcella mi diceva prima di non avere in qualche modo idea di che cosa sia il pissing, giusto? La fascistella. Ho capito il pissing, che sono delle truffe, siccome no, noi di destra pissing. Le truffe non le facciamo. Pissing, pissing. So. A destra pissing. Non fanno truffe. No, non lo so che cos'è. Non allora, lo so a destra non fanno truffe, scusami, beh, non ho sentito quest'ultima cosa. A destra non fanno truffe. Certo, per vent'anni c'è stato un criminale a capo del governo, non c'è ombra di dubbio, perché i criminali erano al governo, i banditi, e quindi è ovvio che sì, vabbè, durante il ventennio non c'erano le truffe. Ma lei ha avuto qualche parente nel regime? Qualche suo parente era implicato nel regime magari? Andiamo a scoprire la biografia di questa simpatica signora che magari ha fatto scappare quel criminale di Prip, che andiamo a scoprire, che stava la famiglia di sta Marcella, ha fatto scappare i criminali nazisti. Magari questa allora qua. Ferma un attimo, torniamo alle basi, torniamo alle basi, pensa agli uccelli, pensa a non sparare agli uccelli, pensa allora pensa Maurizio da Genova, ma credo che possa dire a Marcella che cosa è il pissing, giusto Maurizio? Certo, ciao Giuse, ciao David, ciao Marcella. Marcella, ciao. Non conosci il pissing? Attenzione, Marcella, no. Da non confondere col pishing, quella è la truffa. Appunto, quello che no, è un'altra cosa. Il pissing è una pratica sessuale dove ci si piscia addosso. Questa in sintesi, insomma, in estrema sintesi, capito? L'estrema sintesi, allora, di... questa mi manca, Gruciani, però non escludo, ascoltami, non escludo. Sì. Allora, non l'ho mai provata, non ho avuto l'occasione, forse non ho trovato mai un partner che me l'ha chiesto. Però non ti fa schifo, non ti fa schifo come cosa? No, diciamo. Guarda, a me non mi fa schifo niente. Ah, io beh, questo si era capito. No, non mi fa schifo, poi ma dopo mi devi spiegare perché, si era capito? No, ma si era capito che non ti faceva schifo niente, giusto Parezzo? Cioè si era capito che non hai, che non hai grandi problemi. Organizziamo un incontro con Marcella, dai. Scusa, Marcella devi fare il meeting, assolutamente. Ma manco la conosci, sì, adesso vuoi pisciare addosso a Marcella. In questo caso mi sembra una bella idea. In questo caso... Aspetta, scusami, Marcella, Marcella, ascolta, un consiglio. La prima volta non farlo col tuo partner abituale, la prima volta si fa con uno sconosciuto, che però sia un praticante che sappia cosa fa. Io lo so fare. Scusami Maurizio, ma fammi capire una cosa. Maurizio, ma devo farla io la pipì o me la devo far fare addosso? Tutte e due, boh. Possiamo farlo tutte e due, reciprocamente. In contemporanea è un po' difficile. Ma no, contemporanea è difficile. No, prima uno, poi l'altro. Prima uno, poi l'altro. Capito. Però poi scusami Maurizio, ma approdare poi a cosa? Dopo che ci siamo fatti tu sei l'allieva, devi consegnarti al maestro. Tu sei l'allieva, ti consegni al maestro. Ma io tu ti sei sicuro? Sei sicuro che valga la pena che io mi consegni, Maurizio? Sei sicuro che valga la pena che io mi consegni? Perché se non ti abbandoni nel sesso, se non ti abbandoni totalmente, non raggiungi le vette. Sì, ma io vorrei essere una vecchia cariatide. Cioè, ma forse a Marcello, forse a Maurizio, forse a Maurizio, a Maurizio non gliene frega un cazzo, va benissimo. Cioè, la questione è l'adrenalina, il cervello, non è tanto l'età. Ma quanti anni hai, Marcella? Tanto per chiarire, naturalmente. Quanti... esatto. Io ho 60 anni. Ma 60 anni siamo ancora al top. Maurizio, sto Maurizio, 6-0. Hai il gusto dell'orrido, sto Maurizio. Va bene, sto Maurizio, hai il gusto dell'orrido. Non mi conosci, Parenzo, ma che dici? Non mi conosci. Il gusto dell'orrido. Mi pare di capire stasera ho capito tre cose da Marcella da Roma. Gusto dell'orrido. Scusami Parenzo, facciamo come fai di solito tu, facciamo un riassunto di questa vicenda. Marcella da Roma dice che è giusto che i cacciatori muoiano, anzi è contenta che devono crepare, eccetera. Giusto, esatto, non mi corregge dunque, corretto. Seconda cosa, dice che il Duce rispetto agli statisti di oggi dell'Italia, diciamo democratica, è stato, diciamo, superiore, cioè un grande statista, diciamo, no? Terza cosa, nemmeno terza cosa ancora più importante, mi sembra di capire che ha una, pur non avendolo mai fatto, potrebbe in via teorica provare il pissing, giusto? Beh, se proprio è la giusta, non è la giusta conclusione, è la giusta conclusione, è quello che si Maurizio, merita. Maurizio cerca di convincerla in qualche modo. Ma guarda, Marcella, ti porto a conoscenza di una cosa del quale sono sicuro, però non ti so spiegare il perché, ma sono sicuro per una testimonianza diretta che ho ricevuto, che il Duce praticava il pissing. No, questo non credo proprio. Ma dai, non credo. Era un gran maiale, era un mezzo potente. No, durava poco. Guarda, però non posso dirti una cosa, Maurizio, però non è, anche se il Duce avesse fatto cose di questo genere, non è un buon argomento. C'aveva la sifilide, il Duce, la sifilide c'aveva. Non è un buon argomento. Lo praticava. Io conosco un discendente di una persona, ma non è su questo che la convinci, Maurizio. Cerca di convincerla con altre. È una cosa che va fatta per riuscire a raggiungere la sublimazione nel sesso. Se veramente vuoi abbandonarti, ti abbandoni e vedrai che ti piacerà tantissimo. Ma scusami, io non ho capito, tu quanti anni hai, Maurizio? Guarda, io ne ho 55. Beh, ma è perfetto. Ma come sei? Sei bello, sei brutto, come sei? Vabbè, adesso... allora, sono 1,85 m, peso 89 kg, sono un ex arbitro di calcio, ho un fisico però della 89 Madonna. Kg, Maurizio, 89 kg, per me sei un po' grassottello. Ma di che stai? 1,85 è alto. 1,85 con la corporatura muscolosa, sono come Gullit. Cosa stai dicendo? Questo è pazzo. Beh, 90. A parte che Gullit era nero e per me già, insomma, non fare questi paragoni perché non... Perché? Scusami, non ti piacciono i neri? Aspetta, quarta cosa, non ti piacciono i neri? Scusa, no, assolutamente, Gruciani, no, non mi piacciono i neri. I negri? Fisicamente, E che c'entra? Parlo fisicamente. Cioè, non ci andresti mai con un nero? Ma mai, nemmeno per un milione di euro. Non c'è pericolo, guardi, neanche gli italiani ci vanno con queste cose, tranquillo. Per milioni di euro forse sì. Non Parenzo, scusa, ma tu che ne sai, Parenzo? Ma se non capisco, ci vuole andare con i neri, non ci vuole andare. Ma costa voce, ma è una scassacazzi di primo livello questa, è una specie di capezzone. Sì. Se mette la, è una roba pazzesca, è una che appena la vede al primo appuntamento ti comincia a attaccare una scimmia, ti comincia a dire no, gli uccelli no, non si può sparare gli uccelli, devono morire però tutti. Però fermo. Guarda, Parenzo, ma è una roba pazzesca. Io sono una vegetariana, ma vado a pranzo e a cena con i miei amici, sono che il mio compagno, sono tutti carnivori. Una scassa cazzo. Io non ho capito una cosa. Marcella, scusa un attimo, ma tu hai un compagno? Ma figurati, che non vive con te. Ma che compagno, ma si vergognerà da morire. Allora, voglio capire una cosa. Non avete mai pensato a questa cosa del pissing di cui parla Maurizio? No, è così. Però ci posso provare, dai, glielo chiedo. Ma fagliela tua addosso, com'è farla riceverla, ma Maurizio? Sconosciuto, ma deve farlo con uno sconosciuto. Con uno sconosciuto. La prima volta, suo marito non è capace, non le piscerà mai. No, addosso. Non è detto, guarda, lui mi ha contento. Ma che conversazione tanto, è? Se gli dico voglio fare la video addosso, mi dice di sì. Che razza di conversazione. Comunque c'è un legame, cioè tra il farsi fare la pipì addosso e il duce c'è un bellissimo legame, effettivamente. Ciao, no, ragazzi. Ciao Marcella, io aspetto che tu mi dica sì, mi sono fatta pisciare addosso oppure ho pisciato addosso al mio partner, ma Maurizio sostiene che bisogna farlo con uno sconosciuto. Va bene, Cruciani, però io ti amo. Ciao, beh, adesso non lo dite troppo forte. Lo dica ancora. No, ripeto, sei un grande, ciao, Cruciani. Ciao. Esatto, avete capito? Reza da Bergamo, vai Reza. Sì? Dimmi Reza. Niente, volevo dire che Parenzo è un porco. Anche te, vedi che anche tu hai questa teoria. Lo dimostro. Spiegami, qual è la dimostrazione di questa cosa? Spiegami. Allora, praticamente io mi ricordo lui, era uno o due anni fa, per 10 minuti parlava alla radio del suo pisello circonciso ordinato. Vabbè, ma quello che c'è, non ho mai parlato di questa roba. Del porco, cos'è questo? Cioè, nemmeno Rocco Siffredi ha mai parlato di questo. Ma chi è sto squilibrato qua? Cioè, ma io faccio chiudere galla, tutto. È un porco. Adesso alla galla. Alla galla, non è a galla. Alla galla, quello a galla, no, alla galla. A galla. Alla galla, adesso che lui è un porco, si aprono queste cassette storiche della memoria. Ma memoria stava descrivendo la circoncisione. Un programma o trasmissione di un certo peso, come l'ha abusato lui con tutti questi ascoltatori di un certo valore, che lui lo abusa proprio per marketing del porco. Ma lui è un porco. Ma tu, io l'acquerello. Scusami Reza, tu di che nazionalità sei? Di che origine sei? Questo non c'entra. No, ma dimmelo, di dove sei? No, non ti interessa niente. Io sto facendo di un fatto scientifico che tu da anni, parlando di questo pisello ordinato circonciso, stai abusando la trasmissione per fare marketing del porco. Vabbè, ciao Reza, ciao. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Brasile, non trovare scuse, hai bisogno del Cialis perché con tutta la coca e gli steroidi che ti sei fatto, ormai non ti tira più, sei marcio dentro con tutte le porcherie che ti sei messo in corpo, tra poco schioppi, a 45 anni non ci arrivi. Brasile, tu staresti per entrare nel mondo dello spettacolo? Ma tu puoi entrare a pie pari solo in una cella un metro per un metro, dalla quale ne uscirai solo con i piedi in avanti. Sì, molti messaggi sullo scontro dell'altro giorno, Brasile contro Francesco da Firenze, caro David. Uno scontro, diciamo, con molte parole pesanti, diciamola, no? Parole pesantissime terribile, del Brasile. Terribile. Però anche l'altro non è che ci è andato leggero, perché l'altro ha detto che l'unica speranza del Brasile è il certo, oppure di finire in mezzo alla strada, di ricominciare a drogarsi, eccetera, eccetera. Pure l'altro non è che c'è. Cioè non è che è stato gentilissimo il signor Francesco da Firenze, eh. Comunque, chi c'è da Roma? Chi c'è? Chi c'è da Roma? Chi c'è? Francesco, vai, Francesco, vai, dimmi. Ciao ragazzi. Dimmi, volevo dimmi. Chiedere una cosa a Parenzo. Volevo chiedere una mano, sì, per aiutare la questione della legalizzazione della marijuana e, sì, delle droghe, sì, leggere. Sì, sì, io avevo, sì, questa idea. Sì. Come è successo in America, no? Nei vari show televisivi serali, no? Che lui si accendesse un bel pippero, un bel cannone, sì, prima di lanciare la pubblicità, sì, poi se la, sì, fuma con Telesino, e, sì, conducono tutta la trasmissione un po' sballatelli. Sì, quello, così, diciamo, il modo migliore per farsi cacciare dai signori, guardi, della Sette. Guardi, credo l'idea che potrebbe essere questa. Ma la realtà è molto francese, è molto originale. Io credo che la battaglia a favore della legalizzazione delle droghe leggere, che è una battaglia che mi trova assolutamente d'accordo, penso che ma però, non militante. Penso che però debba avere un altro tipo di respiro. Scusi, diciamo, Francesco, ma non è una bellissima idea questa? Basta con questi conduttori neutrali, basta con questi conduttori che dirigono solo il traffico. Ma una grande puntata sulla droga, con una droga, con gente che si droga in diretta, ma persino i conduttori, o no? Naturalmente, Telese, dai, ma come si fa? Telese, naturalmente, dai, ma lo vedete, Telese, dai, dovrebbe naturalmente farsi una striscia, naturalmente, su quel tavolo, molto bello, naturalmente, una striscia, e poi naturalmente a prendere dal taschino un dollaro, una banconota da un dollaro, naturalmente, metterla nel naso, e poi, allora, questa è la realtà. Telese, dai, come si fa se non si fa così? Telese, noioso, dai. Si vede noioso, ma non è da solo, dai. Telese, però. Dai, il tuo noioso, Telese, col pizzetto, ma perché? Dai. Se dici grosso, dai. Lei dice grosso col pizzetto. Dici, ma grosso, non ho detto quello, però, dai, ma come si fa? Il signor Telese, dai. Francesco, dai. Che dici ancora? Scusami, Francesco, che dici? No, io dico che questo scherzare su mettere la cocaina con la marijuana è un grosso errore. Ma lo sappiamo, ma lo sappiamo, Francesco. Ma lei quante, appunto, canne si fa, però? Lei, ecco, quante, giusto, canne si fa? Quante canne ti fai, sì, Francesco? Ma dipende dalla giornata. Quando lavoro, comunque si vede. Qualcuna al giorno te la fai, ecco, sicuro. Mi dica dove lavora, dipende, così dipende. Magari non ci vado. Ma che te ne frega te? Ma che te ne frega se quello si fa le canne? Sei così libero, no, aperto, certo, liberale, magari, no, e liberista. Capito, quando lavoro me ne faccio meno, dice, ho capito, ma se magari guida un autobus, se si fa le canne, no, preferisco di no. Ecco, la sera magari quando sto, ecco, a casa, allora quando fa l'architetto disegna e si disegna una casa, ma magari, magari viene meglio, cioè magari viene meglio. Ciao Francesco, ciao, ciao, ciao grandi. E a grande richiesta, naturalmente, Francesco contro Brasile. Vai. Francesco da Firenze dà un giudizio, buonasera Francesco, dà un giudizio pacato, direi, sul brasiliano. Qual è il suo giudizio, come dire, sul brasiliano come persona, come performer? Francesco, dimmi. Buonasera a tutti voi, nel senso, io a parte mi chiedo come possa farvi ridere questo poveraccio di 40 anni col senso dell'umorismo di un tredicenne. Poi voglio soltanto dire che voi state commettendo un grave torto nei confronti del Brasile, perché tutto il tempo che lui passa al telefono con voi è tempo, sì, che invece dovrebbe spendere al CERT o, nella migliore delle ipotesi, presso una comunità di recupero per tossicodipendenti. Ma che c'è? Ma magari sta bene, rendetevi conto, rendetevi conto del danno che voi gli state facendo, oltre a farlo credere più di quello che è, cioè uno che ha tanto così dal precedente passo evolutivo dell'uomo, ovvero, cioè, il primate. Cioè lo stai considerando praticamente una scimmia e dici che è un drogato, praticamente. Cioè, è un poveraccio, insomma, che penso fa ridere Cruciani, che è un altro in crisi di mezzo anno. In un mese quanto tu guadagni in un anno, brutto, idiota, stupido, sciocco, capito che ti voglio dire? Ma sei un poveraccio rincoglionito che ridi come un deficiente a battute che non farebbero ridere mio nipote di 13 anni. Ma che cazzo me ne frega a me di quello che guadagni tu? Ma cosa guadagni? Come dire tu, madre? Cosa guadagni? A vendere lo shampoo e la barba su Instagram? Aspetta un attimo, però scusa Francesco, le critiche era subito. Aspetta, brasiliano, bisogna affrontare Francesco con tranquillità, senza iniziare, sì, a parlare, no, della madre e del padre. Civiltà, Allora, civiltà, no, civiltà certo. No, perché Francesco ha fatto delle accuse gravissime. Innanzitutto gli ha detto che è uno un troglodita, praticamente. La prima cosa che ha detto è un'accusa, scusami, è un'attestazione dei fatti. Che è la seconda cosa che hai detto, che è da cert. Questo è gravissimo. Da cert significa. Perché i video non li abbiamo visti, no, i video degli sbirri che se lo bevevano non li abbiamo visti. Ma quelle sono vecchie. Secondo me tu sei imparentato con Sgarbi, un altro che non sa usare il telefono. Certo, meglio con Sgarbi che con te, Brucio, idiota sciocco. Meglio con Sgarbi. Quanto hai guadagnato oggi a vendere il gel per i capelli su Instagram? Ti hanno dato 50 euro. Domani che fai invece? Vendi il balsamo per i piedi? 3.200, tu in 4 mesi guadagni, fratello. Ma tu non sai neanche contare fino a 3.200. Cosa dici? Non sai neanche contare. Calma, allora, io non capisco, Francesco, che non sei altro. Ma no, come Guercio? Che c'entra Guercio? Quello ha avuto un problema, che c'entra? Sei scemo, sei. Ha avuto diversi problemi. Io sto parlando con te con il sorriso perché mi fai sorridere. Brutto stolto, idiota e stolto. Però Francesco, tu non puoi rimproverare a Brasiliano il suo trascorso da, diciamo, certo. da cocainomane, dici dovrebbe stare al CERT. Il suo posto dice... Capire, tu il brasiliano perché l'hai chiamato la prima volta? Ma cosa c'entra? Firme, perché era un influencer. Ma che fai te? Tu stai a casa con papà e mamma. Che fai King Kong? Fai il remake? Fai King Kong? Fai il sequel di King Kong? King Kong 2 a Cinecittà? Stai a casa con papà e mamma. King Kong versus Godzilla? Ti vengono a prendere lì e ti mettono nel costume? Ottobre a Natale, stupido! Scusami, Dalle. In questo caso, Francesco, devo dire la verità, una persona che ha cercato di nella vita ha cercato di salvarsi dal passato, da quello che ha fatto, eccetera. Tu l'attacchi. Dovrebbe stare al CERT invece. Sì. Dovrebbe stare al CERT, assolutamente. In più lo trovo patetico e voi vi approfittate di uno che non ha le capacità intellettive per capire. Ma che cazzo cosa dici? Ma quello è più intelligente di te. Questo è tutto, come quando andò da Del Debbio e alla fine da Del Debbio lo incularono. Da come parli, lì ha dimostrato quello che vale. Convinto di fare il fenomeno e poi se lo incularono, questa è la cosa. Gli diedero pure la cosa. 5 centimetri, stupido. Sì, ma che me ne frega a me, fammi capire. Ma dove vai? Fammi capire, non ho capito. Con me, amico perché mio. Così non domani ti danno 50 tutto. Euro per sono fare amico. La pubblicità su Instagram ai preservativi. Però scusa, il problema qui non sono le misure. Ma di che stai parlando? Sì, ho capito, però Francesco, la questione è molto semplice. Tu non puoi rimproverare al Brasile di essere un troglodita. Ma gli stai dicendo che è un troglodita? Stai dicendo che è un troglodita. Tu perché lo hai chiamato la prima volta? Ma la prima volta l'abbiamo chiamato quando era in mezzo alla strada. Adesso ha recuperato e sta cercando di. E lui è quello. Poi può fare l'influencer, il barbino, il bodybuilder. Tu a l'anno prossimo stai al Gabbio. E io ti vengo a portare le arance a Red Bull. Stati tranquillo. Fai parlare il brasiliano. Subito. Allora, ascolta me. Le persone retrograde come te che rimangono al brasiliano che ha discusso con le guardie. Perché io vi faccio comodo quello là, però ti attacchi al cazzo, perché il brasiliano non capisco cosa vuoi dire, non parlo scimmiesco. Per le persone ritardate di mente come te sono quello. E tu ritardato non sai neanche che cosa vuol dire, fidati, tu ritardato non sai neanche che cosa vuol dire, tranquillo. Io non parlare in terza persona di te stesso, sembri deficiente. Non parlare in terza persona di te stesso, che sembri deficiente, cioè più deficiente di quanto già non sei. Aspetta, fermo, vai sempre. Tra un anno stai al Gabbio, stati tranquillo, perché quando la zanzara a settembre non torna e non ti caga più nessuno. In questo caso stai sbagliando, mentre con altre persone puoi anche aver avuto le tue ragioni, eccetera. Io non sto sbagliando niente. Tu questo stai dicendo un povero fenomeno da baraccone di cui voi vi state approfittando. Ma lascia perdere, tu stai quando dicendo una cosa che lui andrà al Gabbio, che lui andrà al Gabbio. I fenomeni da baraccone che sono passati da questa trasmissione, questo poveraccio qui si troverà poi a non saper fare un cazzo. No, ma perché poveraccio adesso? Perché poveraccio? E tornerà a fare l'unica cosa che sa fare, il coglione in mezzo alla strada, se guarda. Io tornerò a fare quelli sicuro, capito? Io di fame non mi ci muoio, brutto idiota, capito? Fermi tutti, grazie, Brazzi, ciao, avanti a tutti. Francesco, i mortacci tua, ciao. Beh, Parenzo, che lotta, che lotta. Marcello da Bergamo, vai Marcello, vai, dimmi. Ciao a tutti, grazie di avermi chiamato. Volevo solo dire a tutti gli estremisti, quelli contro la caccia, che fanno l'odio, vogliono ammazzare tutti i cacciatori, pisciargli sulle tombe, sì, e quant'altro. Bocavero, ieri, essere... sì. Sì, esatto, no? Che siamo tutti assassini noi, e loro sono razza pura come i nazisti, quindi devono essere messi col collare, individuati dove sono, tenerli molto lontano. Ma chi, gli animalisti? Non ho capito. Sì, gli animalisti, quelli contro la caccia, quelli che, cioè, quelli che contro la caccia assassini. Vanno identificati, messi, e che cosa fate? Confinati, che cosa bisogna fare? No, confinati, semplicemente con un collare al collo per vedere dove vanno prima che facciano altre stronzate e facciano... Sì, ma qui mi sembra, scusa, bisogna reagire in maniera gandiana con questi qua. Cioè bisogna reagire, non bisogna trattarli come loro voggono trattare te. Cioè, bisogna... tutti, ma non vuoi, gli vuoi mettere il collare a questi qua? Che collare? Lascia lì. No, no, perché magari si avvicina, poi attacca brighe e perdo il porto danni per colpa loro perché è litigo. Tu sei un cacciatore? Perché... Sì, no, più che altro sono naturalista, cacciatore, cinofilo. Naturalista, quando... cacciatore, cinofilo, sì. Cioè, che vuol dire? Cosa vuol dire? Che vuol dire? Che vuol dire? Che mi piace la natura, la rispetto. Quello d'accordo, però cacci, però vai a caccia. A me piace la natura, cosa vuol dire che la natura? Anch'io sono una, mi piace la natura, mica mi definisco un naturalista. Ma caccia naturalista. No, vai a caccia o no? Marcello, vai a caccia, sì, o no? Sì, sì, vado a caccia. Cosa come cacci? Buon Gesù è un tipo di selvaggino, beccacini nelle risaie. Sì, la beccacina, sì. Okay. La beccacina. E come buon Gesù ci ha insegnato a dividere pane e pesci, e io vado a procurarmi quelle quattro beccacine per mangiarle con i miei amici e non mi sento assolutamente un assassino. Ecco, voglio se capire se Marcella, adesso proviamo a chiamare Marcella, perché stasera è la serata di Marcella, voglio capire che cosa pensa Marcella di uno che va ancora a beccacine, Marcella. A beccacine, sì, ancora Marcella, sì. Lei è una, un po' di destra, diciamo, ma che vorrebbe morti tutti i cacciatori, morti, esatto. Morti, totalmente morti. Non è un se animalista classica, cioè non carne, è Caporale, la Martani, eccetera. Aspetta un attimo, va bene, va bene. Aspetta, Marcello, Marcella. Marci? Sì? No, aspetta, l'altra. Aspetta. Ah, l'altra. Sì, l'altra, l'altra. Benvenuto nel servizio. Non risponde sta stronza, vabbè. Marcello, dimmi, allora, non ho capito. Dicono solo in benevole, cosa benevola, no? Ho capito, senso, mettere... Che non vuole andare a caccia, che gli dispiace ammazzare gli animali, per... benissimo, che non mangiano la loro carne, benissimo. Che non gli va bene la caccia, benissimo, ma siccome noi siamo nella legge. E ma questo è sicuro, ma non devi con me sfondi una porta aperta, non è quello il punto. Okay. Solo io che tu vuoi identificare, vuoi identificare, volta, li sì. Vuoi identificare, li vuoi considerare. Sì. Ma no, ma questo non va bene. No, identificare, vedere dove sono perché... No, ma gli animalisti altre... che dicono che i cacciatori sono degli assassini vanno compatiti, cioè vanno affrontati con grande spirito gandiano di comprensione, vanno affrontati anche duramente alcune volte. Benvenuto nel... Però basta, ciao Marcello, ciao, ciao, ciao. Ciao. Fausto da Milano, vai Fausto, dimmi, dimmi Fausto. Ciao David. Dimmi, dimmi, vai. Volevo chiedere un buonasera. Consiglio. Buonasera. Sì. Io ho un problema, nel senso che ho il frenulo corto. Ma sì. Cosa vuole da me? Aspetta, ma io non aspetta, sono aspetta, ma che... calma, calma. Ma questo, tu hai un po' di consulenti da questo punto di vista, lo puoi consigliare, il frenulo corto, allora? No, questo ha portato ad avere il glande iposensibile. Ora, ma cosa me ne frega a me? Che... Aspetta, aspetta, aspetta, il glande ipersensibile, dai! Ipo, cioè poco sensibile, poco sensibile. Cioè ci metto un'ora... Ipo in greco vuol dire sotto. Sì, sì, sì, avevo capito iper, vai. Ci metto un'ora a venire. Sì. Siccome tu questo è buono per le donne, non è male. Circonciso. Per le donne non io è male, volevo... però. Certo, no, ma infatti non è male. Il problema, non ho mai avuto l'ebbrezza di provare una doppietta, ad esempio, perché dopo un'ora che scopri... ma che cazzo te frega? Che te frega? Comunque, vabbè, ma che cosa vuoi chiedere a David, scusa, su questa volevo roba? Volevo chiedere a David, lui come fa, se è riuscito in qualche modo ad abbassare, diciamo, questo tempo. No, e scusa, però, senta, però qui siamo di fronte a un paradosso. Caro, cioè, tu sei circonciso o no? No, mi sembra. Io non sono circonciso. Non sei, David, sì. Sì, che cosa c'entrano? Che cosa vuoi cosa sapere da David? Sapere, se la circoncisione da me, può portare dei vantaggi. Una persona circoncisa è nella stessa condizione, al glande iposensibile. Sì, al glande iposensibile, cioè, sì, sì, certo, non c'è dubbio. Allora... Esatto. Quindi David, che ha 18 figli, mi potrebbe spiegare. Capito, non è che fa. Tutti hanno la stessa sensibilità, cioè, alcuni sono. Cioè, esatto, alcuni possono secondo, essere. Io, cioè, anche uno che, te, che si è fatto, anche uno che è circonciso, può essere uno che ha problemi di eiaculazione precoce, non è detto. Cioè, non è detto, caro Fausto. Comunque, cioè, caro amico che telefona, caro quindi. Amico che telefona, lei ha scelto la Radio 24, che è una radio che è volta soprattutto a raccontare le questioni dell'economia, no, vero, per chiedermi per chiedermi una cosa che è di nessun interesse. No, non è vero, che lei, sei più sensibile o no? Io speravo che lei mi ponesse una domanda relativa al recovery fund, relativa ai sovranisti, relativa ai paesi cosiddetti frugali. Quelle cose le lascio in onda, le guardo sulla tua emittente. Lui vuole sapere se essere iposensibile. No, in realtà io ti chiamavo perché me l'ha detto quello che mi ha detto. Tu hai due strade: o chiedi a un amico ebreo o un circonciso in generale, o ti scopri una ragazza. Cosa volete da me? Vabbè. Cosa mi è venuto in mente una lista di persone che conoscevo. L'unico. Vabbè, Fausto, ti ringrazio. Ciao. Marco da Bologna, vai Marco, dimmi. Ciao Giuseppe, allora prima di tutto complimenti a Parenzo che oggi starà celebrando il recovery fund. Sì, ma non ce ne frega un cazzo, Marco, dimmi. Come fa a sostenere la tesi che dopo aver bloccato il paese per 3 mesi non riusciamo a bloccare temporaneamente gli sbarchi con 750.000 contagiati in Africa? Giusto Marco. Ha ragione Marco. Se uno vuole bloccare qualcosa lo fa, come è stato bloccato un paese. Chiaramente gli sbarchi non si vogliono bloccare, mi pare abbastanza chiara questa non cosa. Non mi pare qua, che no? ci sia un'invasione di persone, no, non mi so, pare lascia perdere modo. L'invasione, non e l'invasione. Allora, di cosa però parlate? Il ragionamento è molto semplice: siamo riusciti a bloccare un paese e non riusciamo a bloccare l'arrivo o la fuga degli immigrati all'interno dei centri. È un ragionamento giusto di Marco. E tu, come al solito, dici: no, vabbè, il benaltrismo è un'altra cosa. Qui, su, giù, come al solito. Non c'entra niente. Sempre a ragionare di altro, stai. Sempre a ragionare di altro. È un ragionamento che fa l'uomo della strada. Cioè, l'uomo della strada dice: cazzo, siamo riusciti a bloccare un paese. Questo è un uomo della strada. Sì, ma non so se è un uomo della strada. Questo poveretto. Una persona che normale strada, dice: com'è che siamo riusciti a bloccare un paese? Trattalo con male. I droni, con le cose, con gli elicotteri, e non riusciamo a bloccare l'arrivo degli immigrati. Barra la fuga degli immigrati. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Buono. Bravo.